Benvenuti a un nuovo episodio di Mincio Segone Triforce, episodio numero 7. Siamo quasi vicini al 25. Allora, qui con noi ci sono sempre i soliti quattro membri della Triforza, esatto, quattro membri. Proprio gasato, sembri Va smaronato. Sì, oggi sono smaronato. C'è Vario Punk, sono qui un po' smaronato. C'è Scar the Pumpkin. Sempre pronto a solcare gli oceani anni 80. Solcare gli A oceani. solcare gli oceani. Sta mangiando, è per questo che dice sta roba. Poi abbiamo Gira 93 in collegamento da Vice Me l'hai fregata, la stavo dicendo io. City. Però vabbè, puoi dire in che ciao. quartiere di Vice Sono a Little Italy. City. Ah no, Ok. quella era Liberty City, no, Sono niente. stato ospitato da Diaz. Ho Neanche scoperto che Vice City vuol dire città del vizio. Io non l'avrei, non c'ero mai arrivato. io. Neanche che City voleva dire città. No. E poi abbiamo la risata misteriosa che è quella di Rickscat Un po' 4.5. misteriosa, Cosa? 4.5. Un po' misteriosa, ma la gente mi conosce, però. Adesso non è più misteriosa. Ok, possiamo iniziare. Prima di tutto, diciamo che niente perché stiamo. Prima di. Cosa stai cercando di dire? Non si capisce un Stavo per cazzo. dire, ascoltate il prossimo episodio di Ask the Maker, ma siccome il prossimo episodio di Ask the Maker uscirà prima di questo episodio di Triforce, quello che stavo per dire non ha senso. Time Ora paradox. Cosa? Paradosso Sì, temporale. esatto. Questi wormhole. Sì. E poi E cos'è che cosa volevo dire? volevo Ah sì, dire? Ah sì, volevo volevo dire dire che che stiamo stiamo migliorando perché migliorando stiamo perché perdendo stiamo perdendo ascoltatori. ascoltatori. Non Commenti, c'è ci piace. un effetto sonoro da applauso sotto, Io metterei su We Are the Champion dei Queen, ma, al contrario, ma no? Ah sì. rischieremo di evocare Freddie Mercury, quindi evitiamo. È già successo troppe volte in studio, vero? Mickey Smalls, Mickey Smalls, ok. Ok, partiamo con l'episodio normalmente, come in teoria avremmo già dovuto fare, forse. Forse. Vogliamo partire o no? Sì, visto che tocca a me partire, prendevo tempo, no? Esatto, avete capito bene, oggi Giustamente. purtroppo tocca a me. Allora, io dico purtroppo, ma in realtà non me ne frega niente di iniziare. È solo per rimanere in tema con gli altri, che credono che sia una punizione. Che litigano per cominciare per primi. Litigano, esatto. E tu hai una cicatrice che lo dimostra. Ok, iniziamo, va, se no non iniziamo più. Il gioco che porterò credo che sia il più recente tra quelli che ho portato finora ed è uscito quest'anno, infatti. Ed è The New Guys Days of the Jackass. Si pronuncia Jackass? Che vuol dire? Rotto in culo. Ah, Jackass. Sì. Tesoro del rotto in culo. No, cosa vuol dire Jackass? Boh, dipende come è Ah, scritto. cioè, so che c'è un orribile programma su MTV con tre film annessi e anche videogiochi, però non so cosa voglio È dire. un dispregiativo, non Sì, è un so. dispregiativo, però io lo tradurrei come rotto in culo in questo caso, Ah, visto che ok. c'è S nella parola. È il giorno dei rotti in culo. Allora, di cosa parla questo gioco? Innanzitutto è il seguito di un'avventura grafica freeware uscita nel 2005, se non sbaglio. Sì, sono passati 7 anni, quindi 2005. E al contrario del suo predecessore, questa qui è uscita a pagamento sia in retail con 1.000 copie, se non sbaglio, limitate solo per il mese d'uscita, sia e ovviamente in digital delivery. Adesso si può comprare solo in digital delivery. È un'avventura grafica comica sviluppata a due mani, no, in realtà a quattro, se contiamo anche la musica. Da Icy Box è il nome è il nickname del game maker. Il musicista non me lo ricordo. E poi è prodotta dalla Wazet Eye, non lo so pronunciare, Wazet Eye Games, quelli famosi per Gemini Rue e la saga di Blackwell. Allora, innanzitutto al contrario della maggior parte dei giochi prodotti dalla Wazet Eye, comico, mentre tutti gli altri sono di solito investigativi seri, anche se in passato hanno avuto, diciamo, un'affiliazione con Adventures of Fatman e hanno prodotto anche Puzzlebot, che è Giochillo. un giochillo, neanche un giochillo a cui hanno dato lodi da leccaculo che potevano risparmiarsi. Come direbbe un mio grande amico che, se avete ascoltato Ask the Maker, conoscerete questa espressione. Sempre nel paradosso Sì, temporale. esatto. Sì, gli piace succhiarsi il cazzo da soli a quelli di Puzzle. Ok, angolo della volgarità. Torniamo ad A New Guys, che non è un gioco che si succhia il cazzo da solo, anzi, è un bel gioco. Allora, Da New Guys prende il titolo dai protagonisti del gioco, ovvero il trio di wrestler conosciuto come Da New Guys, composto da The Defender, Simon and The Brain. Questi tre soggetti combattono nella compagnia di wrestling conosciuta col nome più anonimo che più anonimo non si può, Wrestler Zone, e che conosciamo già grazie alla prima avventura freeware del 2005. Nonostante siano passati 7 anni, infatti, tra l'1 e il 2 in realtà è passato un anno, se non sbaglio. E cosa è cambiato in quest'anno? Che Brain ha vinto il titolo del mondo. Tra i tre wrestler, cioè Simon è quello potente, per chi conosce il wrestling, era Attitude, diciamo che è un po' la versione comica di Stone Cold Steve Austin, volendo. The Defender è il wrestler un po' più gimmick, quindi che ha un personaggio fumettistico, e infatti è, boh, è un maniaco della pulizia, direi, visto che è completamente bardato di guanti e via dicendo. E Brain è chiamato Brain, ma in realtà è un tizio a caso. Il più anonimo di tutti. È l'anonimicità fatta persona. E appunto, Brain è una schiappa. Ha vinto un solo match in carriera, ed è nel primo gioco, questo match tra l'altro, contro un bambino. E a un certo punto, all'inizio di questo nuovo gioco, lui vince la cintura del mondo. Cosa succede? Che tutti gli altri wrestler la vince per caso, oltretutto. Tutti gli altri wrestler della Wrestler Zone si incavolano e vanno a casa loro, perché i Da New Guys vivono assieme, come T-Rex e Muscle Sam, e per linciare vivo Brain e riprendersi la cintura e rigiocarla in un nuovo match con tutti i wrestler, dove tutti i wrestler hanno la possibilità di vincerla. Quindi, mentre Simon e il gioco inizia che mentre Simon e Defender intrattengono tutti i wrestler della Wrestler Zone, che sono anonimi da far paura. Cioè, no, veramente. Tu mi fai una scena con 30 wrestler, non ce n'è uno che non è anonimo. È perché tu lo Vabbè. metti sulla base di T-Rex e Muscle Sam, dove tu li hai Sì, studiati tutti. ok. Lo metto con. Allora, piccola parentesi. Io ho sempre sostenuto di aver fatto la prima avventura grafica sul wrestling. Non è vero, ho scoperto quest'anno che da New Guys c'era prima i T-Rex e Muscle Sam, però non sapendolo non posso essere accusato di averli copiati, infatti non lo sapevo. E i miei wrestler della SPF sono 5 volte più caratterizzati di quelli della Wrestler Zone. Chiusa la parentesi. Riapriamo la parentesi. Da New Guys. E cosa stavo dicendo? Ah sì, è l'inizio del gioco. E quindi il tutorial, che è molto carino, che ci insegna come giocare un'avventura grafica, è la fuga di Brain dal cornicione, praticamente. Solo che una volta finito il tutorial, inizia il gioco vero e proprio. E Brain viene rapito, praticamente. Brain e la cintura vengono rapiti. E noi giochiamo nei panni di Defender e Simon, che devono scoprire chi ha rapito il loro amico e recuperare la cintura dei pesi massimi. Durante l'avventura useremo tutti e tre i wrestler. Non cambia assolutamente nulla, semplicemente cambia il loro modo di porsi agli altri personaggi, ma bene o male sono tutti e tre face, quindi buoni. Non c'è questa gran differenza. Non nessuno dei tre ha una abilità in più, per dire, capacità in più. E basta. E sullo scambio dei personaggi è questo. Però c'è un pezzo alla Maniac Mansion o alla Day of Tentacle, se vogliamo, dove useremo più di un personaggio e potremo scambiare gli oggetti tra gli inventari, come ho già visto in passato molte volte, e sono i pezzi di solito quelli più apprezzati. Infatti, in quel frangente di gioco, un personaggio potrà risolvere certi enigmi, per via delle sue capacità fisiche, ad esempio. Allora, passiamo al lato tecnico del gioco. Non entriamo più nella più, ancora di più nella trama perché non ce n'è motivo. Cioè, alla fine tutti i siti dicono solo quello che ho detto io e mi sembra giusto perché sennò si va troppo nello spoiler. Allora, passiamo subito al lato grafico. Icebox è molto bravo come grafico 3D. Infatti, da New Guys, in questi lunghissimi 7 anni tra il primo e il secondo gioco, ha anche un cartone animato in 3D che si può trovare su YouTube scrivendo da New Guys, che è molto molto carino e molto molto ben fatto. Infatti anche nel gioco ci saranno un paio di filmati in 3D e Icebox dimostra di essere veramente bravo col 3D. Col 2D è bravo, sì. Ha uno stile molto vettoriale, con tinte piatte e pulite. Ma se, diciamo non è proprio un problema grafico, è più un problema di, come dire, Composizione. composizione delle stanze, ovvero in una stanza c'è praticamente nulla. La maggior parte delle stanze sono quasi completamente spoglie, c'è cioè il pavimento, i muri e due porte e una macchinetta delle bibite, per fare un esempio, e basta. Anche se il gioco si rifà al mondo reale, qui stiamo veramente esagerando, perché andando avanti scopriremo che sono tutte così le mappe del gioco, sostanzialmente. Quindi mancano di dettagli, diciamo. Sì, esatto, mancano ecco, non mi veniva la parola, i dettagli, mancano proprio i dettagli, ma anche se certe teste di cazzo che fanno finta di essere dei recensori e sono in realtà degli ignoranti, e dicono che... non è, scusate, ma... se sono giù oggi è anche colpa di queste teste di cazzo. Dicono che un'avventura grafica non necessita di dettagli superflui e di tanti commenti nelle mappe. Queste persone non hanno capito un cazzo, perché se parliamo di avventure umoristiche, non parliamo di Siberia, per dire. Quindi queste persone, prima di parlare di un genere, sarà meglio che capiscano che esistono i generi. E quindi un'avventura umoristica, per essere divertente, deve avere i dettagli, vedi Sam & Max Hit the Road, per dirne una, eh. Sì. Quindi, uno, ste teste di cazzo possono continuare a succhiarsi il cazzo da soli e ficcarsi un ombrello nel culo e fischiare in curva. Sta frase ormai ha spopolato. Cosa? Sta frase ormai ha spopolato. No, gli ho aggiunto un po' di dettagli Mi sa che se andiamo avanti così devi iniziare a mettere anche i beep, No, mettiamo il No. PEGI, dai. Ah, lo metti sull'ombrello il beep. Mettiamo il PEGI 16. Ma è tutto queste persone di cui sto parlando non c'entrano niente con Da New Guys, eh? Sono cose personali. Sì. E appunto, Da New Guys, pur essendo umoristica, ha questa pecca di mancare di dettagli che possono dare spunti umoristici dati dai commenti dei personaggi. Solo la stanza di Brain, ad esempio, ha molti hotspot carini. Per il resto siamo nella banalità più estrema, cioè in una strada c'è il tombino e il lampione, fine. E vabbè. Ma dal lato grafico, comunque, questa strada è fatta veramente. È molto ben fatta, è molto cartunesca. Il problema è che appunto che mancano i dettagli. Quindi, per quanto concerne la grafica, Icebox è veramente bravo. C'è da dire una cosa molto simpatica. È che un personaggio che era presente nel primo gioco, che non in questo momento mi ricordo come si chiama, mi sembra si chiami Cold Ice, che è una chiara parodia di Stone Cold Steve Austin. Anche lui. Sì, infatti anche lui assomiglia un po' a Stone Cold. È fatto volontariamente in 2D pesante, cioè proprio è un frame che quando cammina saltella e va avanti. E quando si gira da destra a sinistra, vedi il frame che diventa una linea nera e poi è girato a sinistra. Quindi questo personaggio è proprio fatto in 2D alla Paper Mario, se proprio vogliamo. E questa cosa è molto simpatica. Cioè, se nel primo episodio non si notava tanto perché era molto più pixeloso, qui è veramente carino perché qui c'è molto più dettaglio. Invece questo personaggio è rimasto una sagoma in 2D. E quando si gira da destra a sinistra, vediamo proprio che è una linea nera. Peccato che questo personaggio sia stereotipato e molto anonimo, ma andiamo avanti lo stesso. A livello di storia, la storia è sceneggiata molto bene. E troviamo nonostante diciamo sia molto stereotipata, troviamo certi personaggi che, nonostante siano un po' anonimi, riescono veramente a entrare nella mentalità del wrestling. Ad esempio, abbiamo il fan nerd di internet, che c'è anche nel cartone animato su YouTube. Abbiamo il cosiddetto fan smart, se vogliamo proprio entrare nello specifico, proprio nel mondo, nella mentalità del wrestling. I fan di internet sono i fan smart, o smartoni in italiano. Oppure abbiamo il wrestler divo di Hollywood, che fa il bullo con gli altri, e lui è forse il personaggio meglio riuscito dell'avventura. Abbiamo il padrone della compagnia, che anche lui ha il suo personaggio hippie, e così via. Per il resto, appunto, questi personaggi però non riescono veramente a evolversi. Sì, non hanno una vera evoluzione. Interpretano il personaggio che sono e basta. Cioè, non entreranno mai nello specifico in sottodialoghi in cui ci rivelano diciamo elementi del loro passato che possono aprire a nuove gag, oppure che possono rivelare gag divertenti di un finto passato con i nostri personaggi, per dirne una. Cioè, è molto complicata sta cosa, però per dire, faccio un esempio: tu parli con un personaggio e lui ti viene a dire come hai fatto tu alla festa di Natale dell'anno scorso, e tu gli chiedi: ma cosa ho fatto alla festa? È Manny Calavera, tra l'altro, questo. Non era di Natale, ma è Green Fandango, esatto. Vero, no? Manca la sceneggiatura dei dialoghi veramente coinvolgente. E quando si parla di avventura umoristica, la sceneggiatura di un dialogo è fondamentale. I dialoghi sono un punto di forza. Non devono necessariamente svelare indizi per andare avanti nell'avventura, come può essere un secret file. Devono farci ridere, devono farci venire voglia di chiedere sempre di più su un certo argomento per saperne sempre di più e farci ridere. E qui manca, purtroppo i dialoghi sono piatti, molto molto piatti. Passiamo agli enigmi. Gli enigmi sono a livello medio, non sono troppo difficili, anche se ho visto in giro lamentarsi molta gente di un enigma che sinceramente non ho trovato molto non ho trovato molto difficile. In realtà non l'ho trovato io molto difficile. L'hai risolto te, però alla fine dei giri non era così impossibile, cioè ci arrivi. Eppure la gente su internet ha detto che questo enigma è semi impossibile. In realtà la soluzione è fattibilissima, basta pensarci un po'. Per il resto gli enigmi sono di difficoltà all'inizio e nel capitolo finale medio-bassa, media esagerando, e nei capitoli intermedi bassa. Non è molto frequente bloccarsi in questa avventura, anzi si va avanti molto facilmente, soprattutto perché gli hotspot nelle stanze sono veramente pochi. E gli enigmi stessi sono abbastanza terra terra, cioè non ci troveremo a usare il solito esempio della scimmia sull'idrante, ma ci sarà, è più facile trovare usa chiave su porta, per dire. Nonostante questo, gli enigmi non sono così facili e scontati, e dai, sono un buon livello, un livello che rende la giocabilità non frustrante. Ma sfossano nel divertimento, perché un'avventura umoristica deve avere anche enigmi particolari. Ce ne sono un paio che sono abbastanza innovativi, non innovativi, però divertenti. Non esageriamo, ce ne sono un paio, non tantissimi. Durante l'avventura ci saranno molte citazioni un po' nascoste a tante cose, e ci saranno anche molti cliché, che siano voluti o no ci sono. Ma in un'avventura grafica ormai trovarne una che non abbia cliché è pressoché impossibile, perché la struttura di un'avventura grafica, le possibili strutture sono dei cliché, ovvero un capitolo fatto a trova questi oggetti, trova questa lista di oggetti, è una delle due possibilità per fare un'avventura grafica, quindi è al 50% cadi nel cliché. E poi abbiamo la colonna sonora. La colonna sonora io sinceramente l'ho trovata molto poco atmosferica, anzi abbastanza secondaria. Mentre il doppiaggio, perché presenta anche un doppiaggio, è di ottima qualità. E consideriamo che la maggior parte dei personaggi è stata doppiata da Icybox, è molto bravo sto Icybox. La colonna sonora non è niente di speciale. È sì, molto varia, ma quando giochi non ci fai caso. E in un'avventura grafica è strano, strano alquanto. E andiamo a vedere un po' di recensioni per vedere i voti che gli hanno dato, che sono curioso. Comunque, il gioco, essendo pubblicato dalla YGTA e che ormai è ben visto in tutto il mondo, ha avuto una buona visibilità, ma da quello che ho letto in giro, non ha avuto poi, cioè, dopo l'uscita, non se ne è parlato poi molto. Qualcuno vuole dire qualcosa? Ho No. sentito un verso. Vabbè. No. Guardando ad esempio su Metacritic, anche se Metacritic a me non è che piaccia molto, ha un A56 basato su 9 critiche, per dire. E vedo. Però c'è anche da dire che le critiche negative non vengono da siti specializzati in avventure grafiche. E i siti che non sono specializzati in avventure grafiche danno a un'avventura grafica le valutazioni che darebbero a Diablo 3. Cioè, no, mettono, diciamo, non una valutazione, danno i presupposti di valutazione alla Diablo 3. Cioè, tu non puoi. Questi siti considerano un gioco in 2D come un gioco in 3D, e tu non puoi fare una cosa simile. Cioè, non puoi paragonare la grafica di un'avventura fatta a due mani in 2D a un gioco fatto in 3D da 20, dove la grafica è fatta da 50 persone. Eppure esistono siti che lo fanno. Quindi quando guardate le recensioni evitate i siti generici di videogiochi, almeno per quanto riguarda i giochi indie. Giusto, siete d'accordo con me? Sì, Sì. E questo assolutamente. ostenta anche ignoranza, perché vedo che in questi siti, ad esempio in multiplayer, per dirne uno, le avventure grafiche vengono recensite da bimbi minchia che giocano solo a Call of Duty e durante tutta la recensione fanno solo paragoni dove dicono che la grafica è brutta, ma È che non si può sparare neanche in un pezzo del gioco. cioè, ti rendi conto che stai giocando a un altro genere, ma te ne rendi Sì, conto? infatti. Sì. A quanto pare non se ne rendono conto. E certe piattaforme così grandi dovrebbero farci qualche pensierino su far recensire a gente che ha i presupposti per poter recensire un certo genere, ma a quanto pare non gliene frega molto, anche perché parliamo di generi di nicchia, eh. Ma infatti quella. È il problema. Chi ne frega. Tanto non è sicuramente per quelle avventure per le avventure grafiche che vanno a visitare il Esatto, sito. sì. Ma è anche il fatto che per certi tipi di giocatori non conta la sostanza, conta l'apparenza. Cioè, facciamo un'altra piccola parentesi. Un gioco che vende tantissimo. Tu lo guardi, gli screenshot sono bellissimi, tutto quello che è, ma alla fine, quando tu vai a tirare fuori l'essenza del gioco, cos'è? È solo un gioco dove tu vai in giro e picchi la gente, fine, non c'è nient'altro. Mentre Siberia, per dirne un altro, non avrà la grafica di Assassin's Creed, ma ha 150 volte l'essenza di Assassin's Creed. Però questi siti danno il voto in base All'apparenza. all'apparenza, e quindi hanno senso? No, ma va bene lo stesso. Ma va bene lo stesso. Credo di aver analizzato tutti i punti. Daniel Geiss, qui c'è il film. Vi consiglio allora, se siete indecisi sul comprare il gioco, giusto, diamo la longevità. Non ne ho parlato. Il gioco non è lungo, dura 3-4 ore. Io l'ho finito in una sera e ho giocato tanto, perché volevo finirlo, però ho giocato in una sera. Una sera allungata? Sì, ho iniziato alle 8, ho finito alle 11, 11 e mezza, perché mi sono bloccato su due enigmi, tu. Non è molto lungo, dai. Se non ci si blocca 3 ore e mezza, lo finisci. Però se si vuole capire un po' l'umorismo del gioco, o entrare nel mondo, c'è comunque il primo capitolo gratuito, che è da New Guys e basta, se non sbaglio, sì. che si può trovare in giro per diversi siti oppure sull'archivio dei giochi di AGS. Oppure si può anche guardare appunto il cartone animato in 3D che c'è su YouTube scrivendo Da New Guys, che sono due episodi di un quarto d'ora l'uno ed è molto carino. Io personalmente il gioco costa 8 dollari se non sbaglio, adesso vado a vedere, più IVA e spedizione, più IVA. No, c'è una tassa in più, però non so che cavolo sia. Non è IVA perché non è in Italia, però comunque, dato che ci guardo. E la retail costava 20 dollari più la spedizione e aveva dentro, mi sembra, un poster autografato della colonna sonora, ma no, la retail è esaurita ovviamente, era in 1000 copie. E anche in pre-order mi sembra fosse la retail. Vediamo, vai now. Ah, c'è anche la demo di Da New Guys, se volete provare la demo, scaricabile sul sito Wadget AI, Wadget AI Game. Ecco, sì, non è l'IVA, ma si chiama VAT, la tassa È sempre IVA, eh. che è l'IVA, infatti è 21%. Sì. Costa. Il gioco costa 8,32 euro. Ah, la Wadget AI è in Europa. Ah, ma guarda te. E in più c'è 1,75 di IVA per un totale di 10,7 centesimi. 10 euro. Il gioco costa 10 euro. Per quanto riguarda i pagamenti, questo sito è assolutamente affidabile, quindi comprare da qui è una garanzia. In più ti danno un regalo. Se compri da New Guys c'è un gift. Non so che gift sia, non so cosa possa essere. Ma la domanda che mi viene subito spontanea è, li vale? Non lo Per so perché. 4, per 3 ore di gioco? Infatti, effettivamente. Allora, innanzitutto il gift, vi dico cos'è perché magari può aiutare nel scegliere se comprarlo. Sembra che sia, se tu lo compri, ti dà un link di download anche per un amico. Quindi tu ne compri due copie in digital delivery sostanzialmente. Credo di aver capito, perché qui se clicco su gift mi dice quello. Sì, è quello lì. Ti dice che compri una copia e te ne danno una gratis per un amico, ok. Quindi in sostanza se mettete 5 euro a testa è come dare in due persone 5 euro a avere il gioco, insomma. Sì. Ah, sì. Quindi possiamo dire che il gioco costa 5 euro se trovate qualcuno in società. E se costa 5 euro li può valere perché l'avventura comunque è carina. Beh, 5 euro per un gioco comunque, per quanto Sì. siano 3 euro, 3 ore, dai, è poco. Diciamo l'avventura è di qualità, però Infatti, dura poco. l'umorismo non è eccelso. Diciamo che compensa più in grafica che in contenuto. Allora, l'intrattenimento te lo dà per qualche ora, ma non ti dà l'intrattenimento che ti dà un signor titolo. Però comunque consideriamo che è fatto da una persona sola in 7 anni di lavoro, sette lunghi anni. No, 7 anni. Sì, in effetti sono tantissimi. E dicevo, è fatto da una persona e comunque appunto approfittando di quell'offerta costa 5 euro. Non so se c'è su Steam, alcuni giochi della Wadget AI ci sono su Steam, ma questo credo di no. Ci sono quelli più grossi. Ci guardo, magari su Steam costa meno. Comunque adesso è reperibile solo in digital delivery, quindi la copia retail è inutile anche pensarci. No, su Steam non c'è. Perché a quanto pare non ha venduto abbastanza. Infatti su Steam c'è solo Gemini Room, mi sa, della. Beh, già la cosa che ti regalano una copia se ne compri così mi fa capire che non ha venduto molto. Ma Cercano un modo per invogliare la gente a comprarlo. lo fanno con tutti i giochi però loro, eh. Anche con l'ultimo uscito mi sa che lo fanno, che è, non mi ricordo. Là ci guardo. Primordia, ah sì, è quello steampunk che non è ancora uscito, mi sa, c'è solo la demo. Sì, infatti, ancora non è uscito. Primordia, Non ho idee così pessimistiche. Primordia, se uscirà, perché anche questo sono anni che l'hanno annunciato, venderà da matti perché la grafica fa spavento, è la parola giusta. Mi pare di averlo visto prima mentre guardavo il sito della, come si chiama? Esatto. Wadgetai. Non lo so pronunciare. Ecco, vediamo. Wadgetai. L'ultimo gioco uscito è Resonance e anche Resonance, a parte che. No, io non l'ho comprato. Sì, anche Resonance, ad esempio, se lo compri ti danno una copia per un amico e costa anche quello 10 euro. Ma io non ho comprato, toglimi la roba dal carrello, io non l'ho comprato da New Guys. Toglimi. Certo, non l'hai comprato. A parte che non ho carte di credito, quindi... Ah, ecco perché te lo dai in euro, perché ti calcola automaticamente da dove vieni, che moneta hai. Infatti ci sono tutte le monete Quindi qua. se tu metti Norwegian pesos... In Norvegia non hanno i pesos. Lì c'è scritto, ah no, quello lì è Mexican peso. In Norvegia hanno i pesos. I pesos, sono. I pezzi. Pezzi da 8. Fun stuff. E vabbè, concludendo, da New Guys, io lo consiglio, se trovate un amico e quindi mettete 5 euro a testa, e vi piacciono le avventure grafiche, sì. Norvegia hanno la corona. Non No, hanno i pezzi. c'entrava niente. Ah, d'accordo. È lui che ha sperato a Lezza. Quindi potete pagare anche in pesos qui. Se invece vi sentite proprio sicuri e vi può piacere, 10 euro non sono tantissimi. Io spero che in un futuro la Wajetai riesca ad avere un contratto con qualcuno per la distribuzione, perché sinceramente nel mercato odierno le avventure grafiche le sanno fare solo loro, la Daedalic, che la pronuncio sempre male, e le sapevano fare quelli della Pendulum, ma in questo momento hanno dimenticato come si fa, mi sa. Per il resto c'è Capita. solo roba indie, perché se guardiamo il mercato c'è molta roba indecente. Abbiamo Gilbert che si fa riempire di soldi per fare schifezze. Abbiamo i figli della Lucas che fanno solo merda. Abbiamo quei tedeschi che hanno comprato i diritti di Simon the Sorcerer che non ne fanno uno decente. Vabbè, quella roba lì, dai. Esatto. Non entriamo più nello specifico. E poi abbiamo piccoli casi isolati. Questa è una grande realtà, sta diventando una grande realtà e spero che un giorno qualcuno in Italia li distribuisca decentemente. Decentemente vuol dire non in digital delivery, sinceramente. Tutto tranne di cos'è. No, anche perché l'ista delivery, cioè, non è che costi poi tanto distribuirlo se sai che potresti vendere. Infatti. Cioè, Alla fine una se... scatola a un produttore gli costerai 1.200 euro a scatola, non pensare, perché comprano in stock, se sai che vendi, In sai effetti che non non l'hai fatto una... capisco perché loro non abbiano ancora fatto un accordo con Zodiac o con l'Adventure Production, perché loro venderebbero. E vabbè. Vabbè, sono cose che non si Magari rubano. hanno paura che non vende. Però come, cioè, io ti dico, ti costa 2 euro a scatola, nel senso perché le compri in stock e poi magari dopo le vendi tutte, se non le vendi rischi di fare un flop e perdi un sacco di E soldi. infatti. Per quello dico, magari. Eh In digital delivery, un po' ammortizzi se dovessi sì. fare Ma un flop. infatti. In digital delivery il peggio che può succederti è che non hai venduto i download. Non che ti ritrovi il garage pieno di scatole del gioco che non ha preso nessuno. Dopo lì dipende dalla piattaforma che usi, perché ad esempio se la piattaforma è tua, tu paghi solo le spese per mantenerlo online. Avere il tuo Esatto. gioco su Steam, se è indie devi dare, mi sembra fosse 70 dollari al mese, se non è indie, se è una grossa casa 200 dollari al Ma mese. Vabbè, la guarda che grossa ti casa 200 costa. dollari al mese ci Quindi, riesce a dare guarda tanto. che ti potresti pagare di più anche avere le tue spese. Sai quanto può costarti un server che debba mantenere le connessioni su più persone che scarica? Sì, quello sì. Esatto. Ha un costo E poi abbastanza pesante. devi anche Probabilmente ci mettere in risparmi piedi con Steam. tutto. E comunque il E fatto è con Steam questo, cioè... hai pubblicità gratis, Sì, diciamo. e comunque tu Gratis. devi rientrare di quei 70 dollari. Il massimo che può succedere è che non rientri in quelli. Esatto. Ma al massimo se non rientri in quelli ti buttano, cioè ti cavano il gioco. Devi chiederlo tu, perché quando tu sei lì tu... Tipo No, non se... è che... Guarda che quelli li paghi tu, eh. Quindi anche se tu non rientri, glieli dai lo stesso, loro non te lo cavano. No, ho detto se tu non glieli dai, smetti di darglieli perché non va più, ti cavano il gioco. Non credo che puoi, cioè, credo che tu abbia un contratto con loro, quindi li paghi finché non gli dici di Non lo ricevere. so, Bisogna vedere, perché forse semplicemente tu paghi il fatto di metterli il gioco, non fai proprio un vero e proprio contratto. Boh, non lo so, questi retrocesti. Bisognerebbe... Questi meccanismi. Vabbè, io ho già rubato abbastanza tempo, si sta facendo tardi. Devo finire da New Guys. Devi imbananare. Allora, da New Guys, io personalmente che amo più che le avventure che si attengono alla realtà, le avventure che si attengono alla follia pura, Nonostante non sia male come gioco, non mi ha divertito tantissimo e gli do due banane. E oggi non c'è l'effetto audio. Eccolo. C'è. È che VLC è più lento del solito. E direi che possiamo chiudere qui. Con me. Ah, no, finisce con... la Sì, puntata. infatti. Cosa devi chiudere? Passo il testimone a chi ha perso la rissa di prima. Che Nessuno sarebbe? vuole ammettere di aver perso. Va bene, ho perso io. Giusto che volevo riprendere un po' fiato, ma... E magari mandare giù il boccone, visto che stai masticando. Sto masticando i denti che mi hanno fatto perdere, soprattutto il computer di Gira che mi tirava. No, vabbè, se volete... Se devi masticare con calma, parlo io, cioè... Sì, dai, fa Se parlare. vuoi... Tu mastica. Mastica amaro. Allora... oggi sarò alternativo, passerò dai videogiochi di ultima generazione ai Pokémon. Ti metto No, la non canzone. ridete. No, non lo fare. Ok, però parlerò di un gioco, diciamo, uno spin-off, no? Un gioco comunque particolare nel mondo dei Pokémon, che è Pokémon Mystery Dungeon. In questo caso parlerò della prima, diciamo, la versione squadra blu, che è identica a squadra rossa, che è la prima, diciamo, versione. Come un po' la versione rossa e blu. È una trovata commerciale. Ah. Sì. È una trovata commerciale abbastanza buona perché hanno fatto una versione per DS e una versione per Advance. Siccome era il periodo, siamo nel 2005, periodo in cui DS è uscito da un annetto circa, mi pare, e ancora molta gente aveva ancora il Game Boy Advance perché voleva comprarsi il Nintendo DS, magari vuoi per questioni di soldi, vuoi perché... C'è ancora l'Advance, giochi l'Advance. Sì, Diciamo infatti. che in questo modo sono riusciti a fare una, diciamo, doppia vendita. Pubblicando un gioco per DS, che praticamente il fatto di essere su DS non influenzava niente, i comandi, cose del genere. Aveva qualche cosa in più, tipo con i comandi potevi usarli via touch, ma tanto non... è anche scomodo usare il touch. Pratica è Ok, come la versione questo tipo... dell'Advance. Esatto, in pratica è identico, solo che sopra, lo schermo sopra c'hai i dati dei tuoi Pokémon, in Advance no, alla fine in pratica cambia solo quello. Poi c'hai la cosa che tipo che so, vuoi usare una mossa, puoi fare tutto via touch, però è scomodo, tanto alla fine. Comunque, tornando al gioco, questo gioco è un gioco particolare, non è un classico Pokémon dove tu sei l'allenatore, vai in giro con i sfidi della gente, sfidi, diciamo, la gente che trovi, i Pokémon, battaglia a turni, versione, la classica battaglia dei Pokémon. Questo qui, praticamente, i combattimenti si svolgono in questi dungeon. Tu sei il Pokémon, impersonifichi il Pokémon e ti porti dietro dei compagni. E i combattimenti sono sempre a turni, perché però sono più... Sembra quasi di essere, diciamo, più Sono tipo in frenetici, evento ecco. reale, dai, battaglia evento reale. È Esatto. un action Però capture system. esatto. Però è comunque, diciamo, una finzione, perché in realtà è sempre una battaglia a turni, alla Sì. fine. Questo gioco praticamente si basa su questi dungeon. Ci sono una lista abbastanza enorme di dungeon. Enorme, poi, sì. Il giusto. Questi dungeon vanno a piani, tu continui a prendere queste scale finché non arrivi al piano finale di un dungeon, dove a maggior parte ci sono anche dei boss, diciamo, Pokémon più forti, tipo i Pokémon leggendari, così. C'è una storia abbastanza, diciamo, alla fine in realtà è abbastanza stupido, diciamo, cioè abbastanza banale, ecco, non è una storia così particolare. Però è divertente perché è alternativo, diciamo, ai soliti Pokémon. E praticamente le due versioni per Advance e per DS possono interagire tra loro, perché se tu muori in un dungeon puoi decidere invece di perdere tutto di farti venire a salvare o da uno con via wifi, con un collegamento via wifi con un'altra versione, oppure uno con una versione per Advance. Insomma, posso addirittura interagire. Una cosa, fino a che generazione c'è in questo qui? Fino alla terza? Sì, fino alla terza generazione, la generazione di Rubino da Zaffiro. Zaffiro. Ah, sì. Sì, praticamente sì, arriva fino a quella generazione, siamo in quel periodo lì. Alla fine sono usciti, penso, poco dopo, mi pare. Aspetta, controllo. vediamo un po'. Poi guardando così, Pokémon Zaffiro dovrebbe essere uscito nel 2003, esatto, è uscito praticamente 2 anni dopo. Però comunque comprende quella generazione lì. E basta. Poi è uscita anche Pokémon Mystery Dungeon, versione che non ho giocato, la versione Esploratori del Tempo e Esploratori dello Spazio. Sì, 2007. Adesso 2007, adesso, non so che generazione è. Ci guardiamo subito. No, la copertina sembra che sia un quelli della perla C'è Cinsar, quindi della la piama. Sì, essendo quel periodo lì dovrebbe essere più o meno quasi sì, dovrebbe essere quella generazione lì. E poi ce n'è un'altra ancora che sarà quella della nera e della bianca. Ma no, aspetta, Explorer of the quando è Sky. uscita? No. Ah, il fattore del cielo, sì, l'ho vista adesso. È uscito nel 2009, quella me la sono persa, Perché sai, me la c'è sono Pinko? veramente Lui non persa. sa volare. No, ci mi sa che. Aspetta, No. sì, mi sa Forse è che. ancora quella della perla, mi sa. Sì, perché. No, sì, mi sa di sì. Perché nel 2009. Adesso. Un Sì, la attimo, un paradosso temporale adesso. nera e la Anch'io bianca mi sa che sono. sono del 2010, quindi sì, esatto. Sì, direi che. No, ecco, guardando qua direi che è della versione ancora per Diamante. Perché praticamente parla di Pokémon stile Arceus. Parla tutti di cioè i Pokémon più importanti qui parla di Pokémon di quella versione lì. Quindi direi che sì. È ancora della versione per Diamante. Poi che dire. Andò abbastanza. Dire, non dico lunghissimo, però. Diciamo che ha una sua durata. Anche perché man mano diventa abbastanza difficile e devi un po' potenziarti un po' prima di poter andare avanti in certi dungeon. Praticamente, parlando della trama, così in generale, tu praticamente sei un umano, diciamo, che si è trasformato in un Pokémon. E praticamente incontri quest'altro Pokémon che tra parentesi il tuo Pokémon, il Pokémon che diciamo compagno principale, li decidi praticamente con un questionario. Tu prendi all'inizio apri il gioco, ti fanno delle domande, e sono delle domande diventerai il Pokémon anzi no, il Pokémon compagno lo scegli te, è il tuo, sei tu che decidi questo questionario. Tu decidi, praticamente ti ritrovi in forma umana e praticamente vi trovate in mezzo a dover salvare un Caterpie. E da lì decidete di fondare una squadra di soccorso, diciamo, e quindi tutto il gioco si basa sul fatto che sei una squadra di soccorso e devi andare a salvare gli altri. Diciamo che la mettiamo così. Che vengono picchiati. Quindi praticamente voi ricevete. Molestati. Sì, anche. Ricevete della posta dal Fido Pelipper, che verrà tutte le mattine. È il postino in questo gioco. Suona sempre due volte. No, il mio non suona mai 2 volte. No, comunque ovviamente voi avrete delle missioni da fare, diciamo, secondarie, cioè ogni volta che salverete, che tornerete, vi arriverà della posta, cioè ogni mattina, cioè no, ogni volta che salverete, ogni volta che completerete un dungeon, cambierà il giorno e quindi vi arriverà delle nuove missioni, e in più avrete sempre una missione principale, un dungeon nuovo, diciamo, che è legato diciamo, alla missione principale. Andando avanti, sbloccherete sempre più dungeon e sempre più Pokémon. Perché, diciamo, dovete sbloccare sempre più Pokémon? Perché voi potrete praticamente, quando vi scontrerete con dei Pokémon, anche diciamo catturarli, non proprio catturarli, loro decideranno di seguirvi. Perché vogliono anche loro unirsi alla vostra squadra di soccorso. Quindi praticamente voi dovrete reclutare i Pokémon volendo, collezionarli alla fine. C'è sempre la cosa del collezionismo. Anche se è un pochino particolare, perché per poter, diciamo, fare in modo che un Pokémon vi segua, dovrete avere una terra, potete sbloccare delle terre, diciamo, adatte al Pokémon, e il Pokémon verrà solo se avete quella terra sbloccata, diciamo. Sì, insomma, ti serve l'habitat per tenerlo con te. Esatto, esatto, perché lui vorrebbe, penso che, cioè, anche lui vuole dormire, vuole vivere, quindi non è che finisce nella sfera Poké come era in Pokémon classici. In sostanza è un gioco divertente alla fine. Ho deciso di recensirlo perché dopo tanti anni che non giocavo ai Pokémon, ho deciso di rispolverare. Cioè, mi sono comprato un DS, ho deciso di rispolverare i vecchi dischetti. E mi sembrava carino descrivere questo gioco, anche perché ovviamente non è tra i giochi più giocati, perché non è la classica serie dei Pokémon. È uno spin-off. Io, se non ricordo male, c'era anche una funzione in cui potevi giocare in due, se non ricordo male. No, proprio giocare in due no. Praticamente puoi salvare l'altro pirla che si è fatto ammazzare dentro il danno. Ah, ok, l'altro pirla. Beh, almeno questa è nella versione che ho io. Poi non so se nelle nuove versioni, quelle nuove del 2007-2009, ci sia anche questa funzione. Forse lì sfruttano i wifi. Anche perché, essendo un gioco a turni, secondo me risulterebbe un po' scomodo giocarlo. Non è, se fosse un action veramente, sarebbe un pochino più divertente. Però, essendo a turni, di aspettare che uno faccia una mossa, così è un po'. Anche solo per poter, cioè, conta che i turni vanno anche nei movimenti. Cioè, anche se io faccio un passo, poi tocca l'altro, un passo, poi tocca l'altro, quindi giocare con altre persone potrebbe diventare frustrante se uno magari un attimo si distrae, non si muove o sta pensando così. Ma poi anche in quel periodo la tecnologia wifi non era ancora così. In quel periodo la tecnologia wifi no, non era messa mai. Già il DS normale, tra giocare con le varie persone, era abbastanza sviluppato. Alla fine non cambia tanto gli altri giochi. È vero che fino al DSi, tipo, volevi giocare in wifi tipo su internet, utilizzando i server della Nintendo, dovevi per forza avere presente un router con la chiave WPA, no, WPA, WEP, quella cifrata, mi pare 8 bit, mi pare, perché non c'era nessuno, ovviamente, quindi dovevi modificare il tuo router, era un po' scomodo, oppure avere un access point aperto. Invece con i nuovi DS supporta qualsiasi tipo di router, cifratura. Poi, cioè, il wifi comunque, quello è il periodo in cui è uscito, cioè, Diamante Perla è uscito nel 2007, 2006 in Giappone. E diciamo che è da quel gioco lì che si è iniziato ad avere addirittura l'internet e tutto il resto. Però già col DS certi giochi c'erano già gli scontri in wifi, e giocare tipo Mario Kart, così poter giocare insieme, quindi alla fine non è una questione di sviluppo del wifi, questione che è proprio il gioco che non è molto, secondo me, adatto, predisposto a un multiplayer. Avranno rimediato nell'ultimo, perché comunque ci puntano molto su, cioè, il successo, certo, delle console portatili Nintendo deriva anche da quello. Sì, infatti si è notato che man mano che uscivano i giochi aumentavano sempre, soprattutto guardando anche solo l'evoluzione dei giochi dei Pokémon, aumentano sempre le feature multiplayer, a partire dai cavetti del primo Game Boy al wifi dell'Advance, che c'era l'adattatore wifi, esisteva, non so se ce l'hai, ma me l'avevano dato, mi sa che l'ho perso, dire la verità, quando comprai Pokémon Smeraldo era incluso, mi pare, no, io non so genere. E diciamo che col DS hanno fatto sempre scatti di sviluppare sempre di più, tipo già con la Diamante Perla potevi collegarti wifi sui server Nintendo e poter, come dire, fare combattimenti, scambiare Pokémon così con gente di tutto il mondo. Tutto il mondo, tutti quelli che si connettevano. Io non l'ho mai fatto perché non avevo un router wifi che mi supportasse, quindi non mai. La mia infanzia sarebbe stata diversa con questo, però. Con questa possibilità, però vabbè. Poi vabbè, si parla di... Boh, neanche tanti anni fa alla fine. Pokémon Diamante per... Boh, io direi che ho finito qui la valutazione generale. Per quanto riguarda la colonna sonora, è all'altezza della serie Pokémon, che comunque ha delle sempre dei jingle molto carini. Sì, è abbastanza carina la colonna sonora, è lo stile dei Pokémon in generale. Un po'... Sì, dai, è fatta comunque abbastanza curata. Poi il fatto che non si può disattivare... l'ho potuto ascoltare bene. No, non è vero, è stato un giochi per il Game Boy non ha senso disattivare la colonna sonora. No, è abbastanza fatto bene, abbastanza... È curato come gioco... Ha qualche difetto, diciamo, cioè, non so, la storia è abbastanza banale, il multiplayer praticamente non esiste, tutte queste cose qui, però è carino. Boh, non saprei che altri aspetti guardare. Ah, boh, la grafica è... ha una... La telecamera è tipo... Cioè, la grafica è abbastanza, come dire... Stile presente tipo i giochi dei Pokémon tipo Diamante e Perla, ecco. Sì. Più o meno hai una grafica e una telecamera di quel tipo, diciamo. Quindi proprio anche nei combattimenti così, tutto così. Sì. Quindi RPG. Niente di particolare, esatto, stile RPG alla fine. Infatti il gioco, volendo, è un action RPG... Però per i piccoli, dai. No, perché di solito un action RPG si definisce i combattimenti veramente non a turni, ecco. Non ci devono essere, sì, per essere un action RPG non ci devono essere i combattimenti a turni. Invece questo qui in realtà sono sempre combattimenti a turni. Diciamo che è tipo un RPG, solo che la battaglia non è istanziata, diciamo. No, ma non finisce. Non succede come... Vai, Titi. Dicevo, non succede come nel gioco dei Pokémon, quando inizi una battaglia finisci, ti cambia la telecamera, ti compare, sì, cosa. Così tu continui sempre nel mondo dove sei, senza cambiare niente. Ah, ma ti dicevo, ci sono RPG che hanno quel sistema di battaglia, soprattutto sono quelli americani dei prima metà anni 90. Sì, questo non, diciamo... Non è che sia una novità questo sistema, è che per il gioco dei Pokémon in sé, parlando nell'ambito dei Pokémon, è nuovo, diciamo. Almeno nella prima versione di quello che gioco io era diciamo, un esperimento, vedere cosa succede se una cosa del genere. Adesso non so, perché io non sono un esperto, uno che segue l'economia dei giochi Nintendo. Le vendite, tutto il resto, però non penso sia stato un flop, ecco, penso abbia comunque venduto. Ora vediamo. Sì, ha venduto. Io sono un esperto del settore, soprattutto la Nintendo degli anni 80 e 90, quindi è sicuramente stato un buon acquisto. Grandissimo. Questo è del 2005. Difficile che sia esperto degli anni 80 e 90, potresti essere esperto. No, vabbè, parte di scherzi. Ci guardiamo su Wikipedia cosa dice, anche se non è che sia, non penso sia molto attendibile quello che dice Wikipedia in questo settore, però Wikipedia non ci dice niente, così ci becco, sicuro. Se lo chiede a me non è attendibile in nessun settore. Non è attendibile, no, non puoi dire che non è attendibile. Io posso dire quello che voglio, poi se non sono obiettivo non me ne frega niente, va bene? L'obiettività non è per me. Ok, Wikipedia non ci vuole... Vabbè, comunque per farvi capire il livello di gioco è PEGI 3, com'è che... 3 più. Certo, perché non c'è violenza... Cioè, alla fine si picchiano, però poi stanno tutti bene, non c'è che muoiono. Si dissolvono nel nulla quando ti picchi, a dire la verità. Però a volte si dissolvono e tornano in sé e si vogliono unire alla tua squadra. No, vabbè. È un gioco, diciamo, buonista, diciamo, perché tu sei come protagonista, il tuo scopo è salvare i Pokémon alla fine, quindi poi non ci sono, diciamo, frasi pesanti, cose del genere. Poi tutti i giochi dei Pokémon sono così alla fine. Beh, non c'è un gioco di Pokémon che non è 3 più come Peggy, mi pare. Forse quello per il GameCube, com'è che si chiamava? Ah, oddio, quello lì sono Colosseo, non è il Colosseo. Ce n'è uno per il GameCube dove i temi sono un pochino, ma poco, leggermente più incazzosi. Ah. Piccinini. Non me lo ricordo. Io non li conosco tutti, quindi, cioè, quelli che so, che conosco io, li ho sempre visti 3 più. No, ma sono tutti 3 più, perché comunque sono giochi fatti apposta per i bambini, alla fine, cioè. Uno c'è da dire certo... che... Se vogliamo dire una cosa interessante, il creatore originale, prima che il brand diventasse così grosso, voleva fare che quando tu li battevi in battaglia morivano proprio, si uccidevano. Infatti nella prima versione, quando se tu leggi alcuni nel Pokédex, si mangia, cioè ad esempio c'è scritto PJ mangia i Caterpie, quindi vuol dire che li ammazza. Invece dopo è tutto amici amici, le piume sono belle, ti dice. Sì, dopo Pizzi regala le caramelle Caterpie. Invece nella prima versione si ammazzavano allegramente tra di loro, oppure gli umani li ammazzavano, tipo. Vabbè, tu guarda, tu dovresti considerare che cioè i Pokémon sono come gli animali, quindi teoricamente dovrebbero essere gli animali di quel mondo. Sì. Quindi in teoria è normale che con Pizzi si mangi un Caterpie, perché certo, però dopo questa cosa l'hanno messa e gli dai le caramelle a posto dei Caterpie. Quindi nelle grandi città sono i McDonald's dove ti mangi poco. Le caramelle sono caramelle speciali per farsi di livello. Cioè, più che altro non viene proprio specificato come si nutrono. Esatto, lo omettono. Però in realtà all'inizio erano predatori, come è giusto che siano. Vabbè, ma la morte nel mondo dei Pokémon c'è comunque anche in ricordo... Pare Pokémon Oro, anche in Pokémon Oro per dire si parla di come hanno ammazzato la mamma di Kyubo. No, quello lì è la prima versione, mi sbaglio a tutti, la rossa e la blu. L'hanno inseguita e ammazzata, sì, presa ammazzata. Violentata e ammazzata. Esatto. Comunque diciamo che è vero, tentano di non rendere esplicita questa cosa, perché alla fine sono giochi per tutti. Sì. Beh, giusto, tre più perché... Potremmo dire che un bambino di 3 anni non ci riesce a giocare solo perché, diciamo, non riesce a leggere, ecco, fa un po' fatica a leggere. Però alla fine, anche come semplicità del gioco, tutti i giochi dei Pokémon non sono mai stati particolarmente complicati, cioè, infine. Anche se un pochino, dai, diciamo. In realtà nascondono più di quanto vogliono, cioè... Anche in un possibile multiplayer, nel gioco dei Pokémon, di solito, questa cosa che puoi potenziare i Pokémon così sembra, ma... Uno si può sbizzarrire. Poi vabbè, io non ci gioco da molto tempo, cioè da un bel po' di tempo ai giochi dei Pokémon. Questo qui era un gioco che avevo rispolverato, Mystery Dungeon. Non entro nei particolari. Poi comunque cos'altro si può dire? Non vedo cos'altro descrivere, sinceramente. Quello dei GameCube ci ho guardato, anche quelle tre. Sono tutti tre di Peggy. Tutti tre. Ma... No, anche perché volevo dire la censura di Nintendo, almeno tanto tempo fa, era pazzesca, quindi è chiaro che anche i temi più diciamo ovvi, come il fatto che i Pokémon si devono nutrire di qualcosa, devono essere per forza modificati e fatti in modo giusto. Più che modificati, guarda, fai come fanno loro, lo ometti, tanto non è una... Sì, omessi, volevo dire omessi, sì. Dopo mangiano le pokemelle, sono tutti felici. Ma alla fine di Nintendo l'unica saga che non è, diciamo, che la violenza poca ce n'è è Metroid Prime. Per il resto sono tutti amici e contenti. Anche Star Fox, ok, si facevano saltare in aria, ma erano animali che facevano i Barrel Rolls. Scusa, in Zelda Link tira giù la gente dai ponti. Sì, ma è morto. Dopo lo ucciderai. È evidente. Qualche settimana fa avevo letto un articolo su quando è stato fatto il porting di Maniac Mansion sul Nintendo. Sì, che hanno causato il criceto. Che hanno, sì, che hanno dovuto eliminare, praticamente hanno dovuto rifare il gioco quasi da zero per farlo negli standard di Nintendo. Hanno cambiato la sala delle torture, che c'erano gli scheletri e sangue, hanno cambiato, tolto l'enigma del... Cioè, hanno tolto, mi sembra, proprio quello del criceto. Sì, il criceto non c'è più. Mm. Vabbè, quello è giusto, perché io da animalista non è che mi piacesse tanto sta cosa, però... Sì, però, cioè, alla fine... Giustamente quello che leggevo io nell'articolo è... Si sta parlando di gente che non è in sé, capito? Sì, cioè, quello è... Cioè, quindi è chiaro che tu stai... cercando di sconfiggere il male, ma alcuni, anche alcuni dialoghi sono stati cambiati. Cioè, hanno dovuto praticamente rifare mezzo gioco, perché il gioco è nato così, cioè non è che potevano levare o mettere tutte le cose e pensare di... Vabbè, sì. Di renderlo uguale, ecco. Tra l'altro ce l'ho la versione NES di Maniac Mansion, 10 euro quant'è? Ce l'ho io. Sì, vabbè. Sì, è una dozzina di euro, dai. E lì c'è ancora il Criceto. No, è quella che non c'è il Criceto. Ah, no? C'è... Allora cosa ho trovato? C'è il Criceto, ma non gli fai quello che gli facevi nel computer. Sì, sì, sì. Lo puoi solo coccolare e mettere nella Pokéball. Nella versione normale di Maniac Mansion quel Criceto fa una fine che non ha, che sì, non so che fine fa, che augurerei solo a certe persone. Sì, è vero. Più tardi faccio i nomi. Wikipedia, dai. In generale. il Ideas of Blog, no, immagino. Non li dire. Dai. Vabbè, non ti rendere mio complice. Ti puoi ancora salvare, scappa. Scappa, esatto. No. Puoi tornare al gioco. Ma direi allora, possiamo passare alla votazione. Alla votazione. Dice così, no? Sì. Sì, la... L'italiano che si va a farsi benedire. No, vabbè. Gli darei... Mi piacciono i mezzi voti. Gli darei 2,5 banane a questo gioco. Sì. È vero. Ti piacciono i mezzi voti, vero? Sì, perché non mi piace dare sempre lo stesso voto allo stesso gioco, perché certi giochi dai lo stesso voto però in realtà magari un gioco c'ha qualcosa in più di un altro, quindi sarebbe magari sempre da 3, però magari uno sarebbe un pochino meglio e l'altro un pochino in meno. Perché dovrei do questo voto qua? Perché alla fine non è un gioco eccezionale, quindi poi si parla di un gioco dei Pokémon, non è il genere che gioco in questo momento, diciamo, visto che ormai ho smesso di giocare questo tipo di giochi, anche meno male, direi, forse. Una brutta dipendenza. È la nostalgia, esatto. Che lo è. Quindi diciamo che l'ho giocato per nostalgia, sai, una volta giocavo sempre a questi giochi, quindi... Un pochino mi sarebbe piaciuto rigiocarlo. È un gioco innovativo, diciamo. Per un gioco di Pokémon, almeno a suo tempo, è stato innovativo. Ormai siamo arrivati alla terza versione di questo tipo di gioco. Non è più, diciamo, innovativo. Però, comunque, era una novità. Poi boh. Alcune cose, diciamo, che caratterizzano tutti i giochi dei Pokémon, come una storia non tanto elaborata, diciamo che è meno elaborata di un qualsiasi gioco dei Pokémon, alla fine meno un gioco dei Pokémon qualcosa aveva in più, diciamo, secondo me. È un gioco un pochino, diciamo, fatto per essere più minimale, ecco, brutto come storia, anche perché alla fine non so che grande storia ci potresti mettere, a dire la verità, su un gioco del genere, però è così. Basta, ho motivato abbastanza. Ok. Tra l'altro, ho guardato, dico una cosa, ho guardato un po' di recensioni da New Guys in giro per la rete. Ce n'è una carina che parla con la terminologia del fan di wrestling e paragona da New Guys, dice, se dovessi definire da New Guys con un termine del wrestling, userai bots, e il bots è quando sbagli una mossa, l'esecuzione di una mossa. E dopo, vabbè, praticamente gli ha dato insufficiente e ha detto che è orribile, quindi vabbè. Forse deve piacere proprio il genere un po', no? Così, cioè il genere di gioco deve piacere, magari quello è uno che non gioca mai a questo genere, all'avventura così un po' strana. Sì, infatti era un sito generico. Era un sito generico. I siti di avventure grafiche gli danno tra la sufficienza e il 7. Quindi nella media, diciamo. Infatti, secondo me è un gioco sufficiente, niente più. Comunque, vai, tocca. A gira, perché io sto raccogliendo le costole che mi sono cadute nella rissa. Secondo che volevi essere. Già che ci sei, raccogli anche un paio di computer che ti avevo lanciato prima. Però le ripari tu. A pacchetti speciali come sei messo a Vice City? Eh? A pacchetti speciali come sei messo? Sono a 99, me ne manca uno. Ella! Allora, oggi parlo per la prima volta di un gioco per console. Dato che ancora console? Io ho anche più di una console. Hai anche il Dreamcast. Esatto, ho anche più di una console. E oggi parlo di Mirror's Edge. Gioco del 2008. Film di Asia Argento. No, in realtà solo la voce italiana è di Asia Argento. Ah, non è un film. Vabbè. Non ti interrompo più, basta. Era una rubrica sui videogiochi. Era un'orribile battuta. Ma l'ho capito, hai letto che vabbè. Ah, era una battuta. Mi sento sempre più piano. Allora, stavo dicendo, la versione italiana è doppiata da Asia Argento. È un dire spara tutto in prima persona FPS è sbagliato, perché in realtà si tratta di un platform in prima persona, simulatore di parkour. Esatto, infatti su Moby Games appare sotto free running parkour games, quindi allora leggo proprio da dietro al box, per dire che i giochi lui li compra. Esatto, perché console, cioè faccio un po' fatica, eh. Ah già, io prima praticamente è come se avessi detto tra le righe che non ho comprato il gioco, perché quando guardavamo i prezzi ho detto io non ho carte di credito. Sì, e proprio non l'ho comprato. No, adesso l'ho detto. Vabbè, l'hai detto anche prima. Beh, l'hai detto quasi tutte le puntate alla fine. Sì, più o meno. No, non è vero, tutti gli altri che ho recensito ce li ho. Alcuni li ho masterizzati, alcuni ce li ho proprio comprati. Vabbè, leggi il box. Dice velocissimamente, e che è anche un po' la trama, in una città dove l'informazione è sotto controllo, dove il crimine è solo un ricordo, dove la gente sacrifica la libertà per una vita serena, alcuni sognano di vivere in un altro modo. Comunicano usando corrieri clandestini chiamati runner. Tu sei una runner, in questa città perfetta è stato commesso un omicidio e ora ti stanno dando la caccia. Quindi molto esplicativa la cosa. Allora, praticamente la storia, non si può entrare tanto in spoiler, è quella che ho appena detto. Praticamente noi facciamo da intermediario nella consegna di informazioni, e lo facciamo correndo sui palazzi, praticamente. Poi viene commesso un omicidio che riguarda la sorella della protagonista. La protagonista si chiama Fate, che penso che voglia dire anche in inglese, penso che voglia dire fato, se non sbaglio. Scritto come? F-A-I-T-H, se non mi sbaglio, eh. O Fede. Vabbè, intanto che qualcuno cerca la traduzione, io ecco. Vado avanti. Fede, forse. Fede. Fede. Emilio. Avere fiducia, sì, Fede. Quindi già anche il nome della protagonista. Praticamente... Sì, perché qua sempre sul nostro amato Wikipedia c'è scritto riguardo le religioni, quindi presumo. Io invece sono andato su strumenti per le lingue, quindi niente Wikipedia. Praticamente... Dite no a Wikipedia. Un omicidio che ha a che fare con la sorella della protagonista, che praticamente si ritrova dentro all'omicidio di un politico. La sua sorella è una poliziotta, e quindi noi dobbiamo riuscire a capire chi è stato e riuscire a... A corrergli dietro, esatto. Non posso andare oltre perché chiaramente è una storia di tradimenti, gente che scappa, gente che ci viene addosso, quindi... ci viene addosso, che è contra in 3D. Sì, una cosa... dicevo prima, è un platform, quindi si salta da una parte all'altra e si corre. La particolarità del gioco è che essendo in prima persona, Però è come è stato sviluppato il punto di vista, perché noi praticamente abbiamo la telecamera, che è praticamente la testa della protagonista, per cui noi possiamo vedere sia i piedi che le mani, praticamente tutto il corpo, e anche quando ci muoviamo, il movimento è proprio quello di un modello 3D, diciamo, come prendere un gioco in terza persona, però mettendo la telecamera sulla testa del protagonista. Mm-hmm. Quindi al contrario di molti sparatutto, dove praticamente si vedono solo le braccia, e in realtà noi voliamo in aria, siamo delle braccia volanti. Engine 3D usa l'Unreal Engine, quindi molto leggero, anche in versione PC è un gioco abbastanza leggero. Altra particolarità è lo stile visivo, perché oltre al fatto che le cutscene, quindi i filmati di intermezzo, sono praticamente in stile fumetto, diciamo, tant'è che poi dal gioco è stato anche prodotto una serie di fumetti, sono anche usciti. Disegnato da Asia Argento. No. Da Dario. Per fortuna, cosa? Non so da chi sono stati disegnati. Hanno tutti la sua faccia. Di Dario o di Asia? Di Dario. Adesso magari se carica la pagina Moby Games me lo dovrebbe anche dire. Non me lo dice. Bene. Vabbè, comunque c'è anche il fumetto. E quindi le cutscene sono fatte in questa specie di cartone animato, diciamo. Però il gioco ha delle particolarità, nel senso che l'ambientazione in cui ci muoviamo, oltre ad essere chiaramente molto vasta, è completamente senza colore, monocromatica. Cioè è tutto completamente bianco, tranne alcuni punti di interesse. Che sono evidenziati in rosso, che sarebbero i punti in cui ci possiamo aggrappare, possiamo saltare, e quindi chiaramente aiutano a non perdersi nel paesaggio, ecco. Chiaro, non è che tutto il gioco è completamente bianco, però entrare in un palazzo e vedere una pianta che è totalmente bianca, cioè fa capire che è una cosa voluta, nel senso vogliono far sì che tu ti concentri solo su alcune cose, ecco. Poi c'è il combattimento corpo a corpo con i vari le varie forze dell'ordine. Ma ci siete ancora o state dormendo? Stiamo correndo. No, io sono qui. Sto pulendo una lente di ingrandimento. Ah, ok. No, bravo. No, perché siccome chi ci segue sa che io ho sempre problemi di rete, pensavo di arrivare a metà e poi sentire che ero disconnesso e aver parlato per niente. No, è che volevo commentare quando hai detto forze dell'ordine e dire qualche stronzata, però dopo ti interrompo troppo spesso, come sto facendo adesso, quindi... No, ma non c'è problema, cioè... quindi stavo dicendo delle forze dell'ordine, no? E quindi l'attacco principale sono gli attacchi corpo a corpo, quindi pugni, calci e varie mosse, come ad esempio calciare mentre si salta oppure mentre si sta scivolando per terra. Però possiamo anche prendere le armi dei poliziotti, praticamente, e qui si fa vedere un po' l'FPS che è nascosto nel gioco, che però se uno inizia a giocarci con l'idea di giocare a uno sparatutto, sta proprio sbagliando gioco. Perché appena c'ha da fare un salto vola di sotto col fucile. Esatto. No, anche perché le armi, diciamo, che scarseggiano, nel senso che l'unico posto dove le trovi sono le persone, cioè io prendo a pugni un poliziotto e gli prendo la pistola, e in più non si possono neanche ricaricare, praticamente si spara finché non finiscono i colpi e poi automaticamente il personaggio le getta via. Cosa che aumenta ancora di più il realismo è il fatto che manca LUD, praticamente l'interfaccia LHUD, l'interfaccia grafica. Esatto, quello che mostra la vita e i proiettili, non esiste. Quindi quando veniamo colpiti un po' di volte inizia a diventare tutto lo schermo rosso, mm-hmm. e purtroppo se ci nascondiamo e rimaniamo tranquilli passano i dolori da tutte le parti e riusciamo a prendere anche milioni di proiettili. È un classico di FPS, sì, giochi di guerra. Gears of War. Esatto. Halo. Ma anche Call of Duty, alcuni erano così. Call of Duty, tutti gli ultimi sono così. Gears of War ti più colpi prendi, più compare lì il simbolo di Gears of War di sangue. Esatto. Se non sbaglio. E più stai nascosto, più scompare questo simbolo e stai bene. Esatto. Diciamo la rigenerazione. La rigenerazione, sì. È digerire i proiettili. Sì. Diciamo che non è il massimo, però è chiaro che in un gioco così anche complicato, perché ci sono momenti in cui si prendono un sacco di proiettili. Se era veramente realistico e dopo 4-5 volte morivi subito, non sarebbe stato, cioè io sarei rimasto bloccato sempre nello stesso punto, perché cioè, ci sono gli elicotteri che ti inseguono sparando, cioè no, è anche che o fai quello o metti medikit per terra o le bibite, ma anche se metti quelle, esatto. Cos'è? Il medikit in 2 secondi guarisce ogni dolore. Appunto, anche le bibite. Esatto. Poi preso in corsa e usato subito. Esatto, no, però devo dire che l'hanno pensata anche bene, nel senso che non è che prendi, diciamo, 20 colpi e hai lo schermo leggermente rosso e quindi ti devi andare a riparare. Diciamo che se sei a fuoco scoperto e in 3 secondi non ti muovi, muori. Cioè non è che hai abbastanza tempo per dire cerco un riparo, quindi devi comunque cercare di evitare le situazioni di pericolo, ecco. Anche perché muori praticamente quasi subito, eh. Però se ti ripari vieni rigenerato. E poi che altro dire, essendo basato sul free running e il parkour, ci sono varie mosse, come aggrapparsi ai come si chiamano? Cornicioni. Ai tubi, ai cornicioni e ai tubi. Ai tubuli. Fare salti incredibili e cadere in piedi, soprattutto. Cadere giù dai grattacieli è sempre il massimo divertimento. Ah, una cosa, quando cadi da un grattacielo, la telecamera rimane fissa, ti fa vedere solo che stai cadendo, ti fa vedere dove stai andando proprio? No, ti fa vedere che stai cadendo. Cioè, è comunque attaccata alla protagonista. Cioè, tu vedi le sue braccia che si muovono, i piedi, finché non tocca terra. Quindi vedi anche lo spiaccicamento? No, al tempo che arriva a terra, diciamo che alla fine vedi lo schermo che diventa rosso, come se hai preso del danno, e poi cioè, va in fade, cioè sì, mm-hmm. diventa nero e ricominci dal checkpoint. Però è già tanto che ti fanno vedere che cadi. Sì, normalmente rimarrebbe la telecamera fissa e esatto, no, ma poi è anche fatto molto bene, perché è anche la sensazione di velocità, no? Senti proprio il vento che nelle orecchie, cioè una roba ti viene quasi cioè distinto, ti viene di proteggerti come se ti sei fatto male. Quindi anche in questo è fatto molto bene. Si basa molto sul flow, quindi sul fare delle mosse giuste in sequenza, quasi combo, diciamo. Perché se noi facciamo delle mosse in sequenza fatte bene, quindi corriamo, non so, sempre dritto, saltiamo la staccionata, passiamo sotto a un condizionatore, e poi cioè, senza fermarci, quindi senza andare a sbattere contro un muro, noi continuiamo ad acquistare velocità, quindi corriamo sempre più veloce. Chiaramente nel limite dell'umano. Cioè non... Per quanto un umano possa fare possa questo. Correre, esatto. Sì, tipo, ultra velocità. Esatto. Sì, una roba... cioè arriviamo a un certo punto, quindi corriamo sempre più veloce. E questo aiuta, perché in alcune sezioni bisogna fare dei salti molto lunghi, quindi se non si ha abbastanza rincorsa, non si riesce. Mi stanno sparando? No, non è mio. Hai 3 stelline? No. Non è mio questo rumore. Ah, ok. Riccardo, hai 3 stelline? No, io sono qui tranquillo. Che cos'è? Sembrano dei popcorn. Continuano a piovere proiettili. No, era una bottiglia che esplose, non ti preoccupare. La rimetto a posto, non sono stato. Allora, poi... stavo parlando della, dunque della velocità, no? Che si prende velocità più mosse giuste si fanno. Appunto, la direzione in cui dobbiamo andare ci è data dal fatto che l'oggetto a cui ci dobbiamo aggrappare, perché non abbiamo scelta, in questo è un punto negativo, ci dobbiamo aggrappare, diventa rosso, quindi man mano ci avviciniamo si colora di rosso per attirare l'attenzione. E in più c'è premendo un tasto, che non mi ricordo qual è, automaticamente la protagonista si gira verso la direzione in cui dobbiamo andare. Questo per aiutarci a orientarci meglio. Poi che dire? Il concetto è buono, nel senso che noi ci troviamo a correre in spazi aperti, molto vasti, e anche in spazi chiusi, perché corriamo anche dentro agli edifici. Però non è sviluppato al massimo, perché appunto per arrivare al nostro obiettivo c'è una sola strada possibile. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è seguire le cose che diventano rosse, no? E arrivare fino all'obiettivo. Per cui non è che abbiamo molta scelta su quello che dobbiamo fare. Certo, abbiamo scelta su quando ci sono i combattimenti, se evitarli oppure andare direttamente in mezzo alla rissa, però un minimo di scelta in più, come ad esempio arrivare in un punto saltando sui grattacieli oppure per strada, sarebbe stato forse meglio. In generale il gioco ci obbliga sempre a saltare sui grattacieli. Poi che altro dire? La musica molto azzeccata, sempre all'altezza, cioè sempre giusta nella situazione in cui ci troviamo, normale, nella norma, come colonna sonora. Passiamo al doppiaggio in italiano, perché la protagonista principale è doppiata, come tu hai detto prima, da Asia Argento. Da Dario Argento. Da un cane. Asia Argento. Ah, da Asia. Asia Argento. Nota per la sua abilità. Che è totalmente inadeguata, cioè... È una cosa che... Non per l'abilità, più che altro perché il gioco, se guardate la copertina... La protagonista ha questi tratti, diciamo, asiatici, no? Giapponesi, infatti sembra la città, sembra una specie di Tokyo, ecco. Tant'è che anche i cartelloni che hanno le scritte in giapponese, sembra. E mettere Asia Argento, che doppia una protagonista asiatica, cioè, è assolutamente ridicolo. Meno male che la protagonista si vede in faccia praticamente mai, e quindi ci può anche stare, no? Cioè, alla fine uno si abitua a vedere una faccia, quando poi alla fine del gioco l'unico punto in cui vedi la protagonista per intero capisci che non era quello che ti aspettavi. Quindi in pratica pensi di usare Asia Argento. Esatto. L'unica cosa che hanno in comune sono il taglio di capelli, credo. Sì, infatti. E il sesso, ovviamente. E quindi... Hai dei dubbi? No. E quindi diciamo che forse la versione inglese non l'ho provata, perché chiaramente non posso dire com'è il doppiaggio, però quella italiana, diciamo che il doppiaggio in generale è buono, però la scelta del doppiaggio nella protagonista potevano farla forse un po' meglio. Cioè, tu stai dicendo che lei è brava comunque nel doppiare? No. Cioè, sì, però no. Ah, cioè, sì, perché, diciamo, sì. Vocalmente ci sta dentro al gioco. però no, perché non è adatta alla protagonista. Sinceramente no, fa fatica a crederti. Io ho visto tutti i film del padre e quei 3-4 dove c'è lei, e lei veramente parla da cani. Sì, però forse è il... magari l'hanno modificata dopo la voce, non ti so dire, però... È molto più probabile. Però, cioè... o forse per anche parla, non parla tantissimo la protagonista, però diciamo che le volte in cui parla, sì, certo, senti in alcune parole, la senti... voce viene adattata, viene comunque. Esatto, senti, certo, in alcuni dialoghi senti bene la voce, dici ma non mi quadra tanto questa cosa, però diciamo che in generale nel contesto ci sta anche, ecco. Comunque il doppiaggio in generale anche delle altre voci non è male, ecco, è abbastanza buono. Quello che non ho detto è chi ha fatto il gioco, me lo sono dimenticato. Dario Argento. No, l'ha fatto la DICE, Electronic Arts Digital Illusion, CE, DICE. Ah, è l'Electronic Arts sempre. Sì, Digital Illusion è una DICE è una sotto... È un sottostudio dell'Electronic Arts, quindi alla fine l'hanno fatto loro. Ma se lo sono comprati dopo o se da sempre è un sottostudio? No, penso che sia da sempre, perché Digital Illusion... Perché DICE dovrebbe essere Digital Illusion Creative... Digital Illusion Creative Entertainment, EA Company. Quindi o penso... Magari l'hanno creata oppure se la sono comprata, non... Adesso andiamo a vedere. Così. No, da sempre sembrerebbe. È una società svedese. Boh. C'è scritto che, come tutte le compagnie scandinave, era originalmente iniziata come un gruppo demo. Ah, ecco. I Silence. I 4 sviluppatori originali... venivano tutti da Altvesta, bla bla bla bla bla bla. Sì, diciamo che... perché qua dice... No, li hanno comprati dopo. Esatto, sì, perché poi dice fece lo sviluppo di Battlefield prodotto da EA. E dopo alla fine se li sono comprati. Esatto, esatto. Per fargli fare tutti i Battlefield, perché qua vedo che li hanno fatti tutti loro. Sì, sì. Comunque, diciamo che questo gioco qui... è particolare, nel senso che deve piacere, perché appunto se si gioca tentando di giocare uno sparatutto e quindi cercando di andare addosso a chiunque ci capita, cioè si rimane delusi, perché appunto che non è sparatutto, eh? Hai dato una bella immagine di sparatutto. Perché? Cos'è? Cioè, è proprio Serious Sam, no? Corri incontro alla gente sparando, è quello, sì. Lo sparatutto. Esatto. Infatti si chiama sparatutto. Quindi si rimane delusi perché non è proprio il genere, però se si entra nel gioco, se si gioca senza pretese, quindi senza, diciamo, prendendo quello che il gioco ci dà, ecco, io sinceramente ne sono rimasto colpito, perché è innovativo, non avevo mai visto una cosa del genere, e soprattutto è abbastanza reale la resa dei movimenti che facciamo, quindi appunto la velocità, i salti, se facciamo un salto troppo alto dobbiamo premere il tasto per rotolare quando atterriamo, altrimenti ci facciamo male. Mm-hmm. Dato che ho parlato di tasto, il gioco è anche pensato bene, perché il tutto si controlla più o meno con 2 tasti. Cioè le azioni si svolgono più o meno con 2 tasti, quindi oltre al fatto di muoverci abbiamo un tasto per saltare e un tasto per abbassarci, e a seconda della situazione come li usiamo facciamo mosse diverse, tipo se saltiamo e poi premiamo il tasto per abbassarci rotoliamo, se invece non so siamo aggrappati a qualcosa e premiamo il tasto per abbassarci ci lasciamo cadere, quindi diciamo che Non è caotico come sistema di controllo. Quello che poteva però essere migliorato è che il gioco richiede un po' troppa precisione, soprattutto nei salti. quindi capita spesso che magari stiamo saltando verso una tubatura e non so, la manchiamo di un centimetro e cadiamo giù solo perché non ci eravamo direzionati dalla parte, non eravamo direzionati alla perfezione. E questo è uno dei pochi difetti che ha il gioco, oltre ad essere leggermente ripetitivo in alcune sezioni, ecco. A te parli della versione PlayStation 3, vero? Io parlo della versione PlayStation 3, ma ti parlo anche della versione PC, che non è altro che un porting delle due console. Sì, è che della versione PC so che richiede tantissimo per essere giocato. Sì, però richiede tantissimo relativamente, perché comunque, almeno, adesso non ho sotto mano i requisiti, però diciamo che è anche più o meno nel... Rispetto ai giochi che girano ora, è chiaro che sono abbastanza bassi come requisiti. Beh, 2008 però comunque parliamo. Sì. Quando ancora appunto, forse, Double Sbar, forse richiede di più appunto perché è un porting della versione Xbox. Quello è più probabile, sì. Però comunque come contenuti sono esattamente identici. Tant'è che la versione PS3 e Xbox è uscita nel 2008 e la versione PC nel 2009. Ah, ecco, infatti. Quindi appunto è un porting. E nient'altro da dire. Vediamo un po' se ho tralasciato qualche cosa. Ecco, una cosa molto, molto geniale che hanno fatto è che durante il gioco non esistono praticamente caricamenti. Cioè, mi spiego meglio, il gioco è diviso in capitoli, sono 9 capitoli, anzi 10 perché c'è anche il prologo, sono 10 capitoli, diciamo che il caricamento avviene solo al cambio di capitolo, che comunque non lascia a metà, nel senso non è che sto seguendo, non so, un personaggio che parla e a un certo punto c'è il caricamento, cioè finisce il capitolo come se finisse una giornata, ecco. La genialata che hanno fatto è levare il caricamento durante i capitoli, quindi un capitolo anche di 40 minuti, per dire, adesso non so quanto, non mi ricordo neanche quanto durano i capitoli, però mettiamo anche un'ora, non c'è mai un caricamento durante il gioco. Questo perché hanno sfruttato la genialata di farci entrare dentro degli ascensori. Quindi il caricamento è l'ascensore che va. Mentre noi stiamo dentro l'ascensore e aspettiamo, intanto ci possiamo muovere dentro l'ascensore e leggere le news che ci passano, che c'è un monitor che ti fa vedere le news, intanto il gioco in realtà sta caricando il livello, cioè il segmento successivo. Non è tanto lungo, cioè non sono tanto lunghi i caricamenti, e comunque siamo distratti dal fatto che c'è anche la vocina dell'ascensore che magari ci dice le novità, oppure parla di noi, tipo un runner è stato avvistato mentre correva, insomma, siamo un po' distratti dall'ambiente, ecco. E quindi questo è una cosa positiva, anche perché molti giochi hanno i caricamenti in mezzo ai capitoli e in quel modo si taglia come si dice, l'attenzione, no, di chi sta giocando. Poi che altro dire? Ecco, il fatto di usare le cutscene in quella specie di simil cartone animato, quasi fumetto, stacca un po' rispetto al gioco e non è il massimo. I personaggi sono comunque fatti bene e sono praticamente uguali a quelli 3D, a quelli normali, però magari, cioè, si sta giocando per più di 2 ore al gioco vedendolo in un certo modo, e a un certo punto c'è la scena di intermezzo fatta a fumetto e non è il massimo, ecco. Sono due stili un po' discostanti. Esatto. Comunque le idee ci sono, però sono poco sviluppate e mi piacerebbe tanto vedere, anzi sperare se ci sarà un seguito. Sembrerebbe di sì. Dovevo usare argento, suppongo. Mirror Sess 2 una nuova avventura. No, una fantastica avventura. Ma se in rete ne parlano, però chi lo sa. Arriverà multipiattaforma? Sì, a luglio sicuramente. Mirror Sess 2 si fa. Ah no, l'hanno detto a luglio, hanno detto che stanno facendo Mirror Sess 2. Che faranno? Sì, quindi bisognerà vedere. Sicuramente il concetto del gioco è ben riuscito. L'idea l'hanno avuto anche perché io un gioco di questo tipo non l'avevo ancora mai visto. Non penso che ce ne siano stati anche prima di questo fatti in questo modo. Quindi sicuramente hanno centrato, diciamo, l'innovazione c'è. Però un po' di qualche idea in più magari. Hanno puntato tutto sul fatto che la visuale e il tipo di gioco era nuovo, senza però pensare che magari un qualcosina in più avrebbe anche aiutato. Oh, sto guardando un po' gli screenshot per vedere se mi viene in mente qualcos'altro. Ci sono parecchie cosplayer, vedo. Eh? Ci sono parecchie cosplayer. Ah, sì. Climb, no. C'è un'immagine stupenda. Cioè, è tipo una vignetta di un fumetto, no? Con c'è scritto che c'è il rettangolino che dice di solito dove ti trovi o quando è presente. Sì. E c'è scritto nel frattempo alla Valve, come si dice quello di Steam? Alla Valve c'è un ciccione che sta facendo il bagno nei dollari, tipo Paperone dei Paperoni. Ed è riguardo a Mirror Sess 2. Ma come l'hai trovata? Gabedolla PNG. Ah, parlano di Mirror Sess 2, già hanno postato quello. Devo andare a vedere allora. No, vedo se si trova scrivendo così. Dopo andrò a guardarla. Comunque sì, comunque il... No, non vi è. Il... Ah. Ma vai, è che è pieno di facce strane del proprietario della Valve. Comunque il gioco un po' ha lasciato qualche spunto, anche perché sono adesso vado a vederlo subito. Sono usciti già dai, che cos'è? sono uscite delle versioni, cioè una versione flash che facevano giocare sul sito ufficiale, adesso non so se c'è ancora, che serviva un po' come introduzione al gioco. Chiaramente non era in 3D, era un platform in 2D. E poi c'è la versione mobile, che è sempre un platform in 2D. Quindi diciamo che un po' di successo l'ha fatto, anche se ne hanno parlato tutti molto bene, però alla fine è un po' passato inosservato, ecco. Sì. Infatti sto guardando le recensioni adesso su Moby Games, e sono tutti su 9 su 10, 9 su 10, 8 e mezzo su 10, cioè 82 su 100, quindi diciamo che... Ma anche che... quando doveva uscire, tutti i giornali e i siti ne parlavano, perché era innovativo. Alla fine lo è stato, però non è ricordato come dovrebbe essere ricordato un gioco con con l'innovazione che ha avuto. Esatto. Ah, ecco, una cosa che non che sto guardando adesso, che la versione PC supporta Nvidia Physics, e quindi avremo più, diciamo, degli effetti di fisica fatti un po' meglio, però niente che valga la pena comprarlo per entrambi, non so, per console e PC, solo per quello. Forse lo davano con l'uno, può darsi che l'abbiano dato in edicola. Il primo? Mi sembrava di sì. Cioè il primo, l'unico. Vabbè, sì, certo. Mi sembrava fosse uscito in edicola. Boh, chi lo sa. Ma sai che, che mi pare di averlo visto anch'io in edicola? Forse, che però non l'avevo... Sì, sì, l'avevo visto anch'io, non mi ricordo con che rivista, ma non l'avevo preso perché ho detto... avevo ancora il PC vecchio, ecco, ho detto, tanto non va. Era con The Game Machine, e dico anche il mese, gennaio 2011. Sì, gennaio 2011. Ah, eh sì, l'avevo... Sì, sì, l'avevo... L'avevo visto anch'io, però non mi ricordo se non l'ho preso perché già avevo la versione PS3... O perché avevo ancora il computer vecchio, non me lo ricordo. Però sì, sì, era uscito anche in edicola. Sto guardando... Boh, niente. Ah, cosa strana per un gioco della DICE, manca il multiplayer, giustamente. Anche perché Non vedrei neanche un qualcosa di multiplayer dentro un gioco simile. No, l'unica è darci le botte e tirare gli altri giù dai palazzi. Sì, alla fine. Sì, effettivamente. Cioè, non... Comunque è stata... piuttosto che metterci dentro un multiplayer magari assolutamente ridicolo, inutile, è meglio non metterlo, ecco. Esatto. Ah beh, sì, a questo punto sì. Certi giochi l'hanno fatto. Certi giochi li hanno fatto in multiplayer inutile, ci fai più brutta figura che altro, quindi... Esatto, no, poi vedo qui, sto guardando sempre la copertina qua, che sì, diciamo che c'è un minimo di rigiocabilità, c'è, anche perché una volta, diciamo, il primo impatto con il gioco... è che stiamo sempre fermi, nel senso che magari ci guardiamo in giro per cercare di capire dove andare. Una volta finito il gioco, almeno io ho avuto questa sensazione, mi è venuta la voglia di rigiocarlo per riuscire a fare tutto nel modo giusto. Mm-hmm. E quindi riuscire a fare la sequenza di mosse senza mai fermarmi. Il gioco non ce lo dice, nel senso non è che c'è un punteggio che ti dice... hai fatto le mosse giuste o okay. Cioè assolutamente no, cioè puoi anche stare fermo 20 minuti e poi incominciare a giocare. Sarebbe troppo picchiaduro. Però ho avuto la sensazione, ho detto no, voglio vedere se riesco a continuare a correre senza mai andare a sbattere. Poi una volta finito il gioco si sblocca si sbloccano dei livelli di corsa contro il tempo, quindi che si devono cercare di completare nel minor tempo possibile, quindi c'è un minimo di extra, ecco. Però alla fine finisci il gioco e al massimo lo rigiochi perché vuoi cercare di fare tutto nel modo giusto, ma niente di più. Niente costumi alternativi con la S minuta, perché tanto non la vedi, quindi... No, infatti. Altrimenti, infatti, come in tutti i survival horror ci sarebbe stato... Altrimenti tutto. Wario l'avrebbe già comprato. No, è che nel survival horror, quando li finisci, come incentivo per farti rigiocare, cosa ti danno? La protagonista seminuda. No, semplicemente l'avrebbe scaricato. No, non mi piace il genere, quindi. Anche perché la protagonista si vede interamente, si vede solo alla fine del gioco e basta. Quando c'è un'inquadratura che ti fa vedere il paesaggio, c'è anche lei, basta. Beh, nei filmati si vede. Eh? Nei filmati non si vede. Sì, nei filmati, però io intendevo col motore grafico del gioco. C'è una specie di cutscene, l'unica alla fine, in cui ti fa vedere la protagonista interamente. Mm-hmm. E quindi da lì ho anche capito che hanno fatto il modello 3D della protagonista e poi gli hanno attaccato in testa la telecamera. Sì. Perché se non sbaglio, mi pare anche che in giro su internet avevo visto anche di una specie di hack per PC che abilitava la modalità in terza persona, quindi... Sì, l'ho visto degli screenshot che usano la terza persona. Quindi vuol dire che è stato progettato così, ecco. Comunque è molto bello anche in alcune cutscene, che non sono proprio cutscene, più che altro sono dei dialoghi con i personaggi, è bello il fatto che tu comunque rimani sempre in prima persona, però chiaramente la protagonista si muove da sola, quindi è come se parla e tu vedi le mani che gesticolano, no? Che sbatte, sì, non so, il pugno sopra il tavolo, quindi anche in quel senso è fatto bene. Vedo adesso lo screen. Sembra un po' più stupido il gioco, però, visto così. Eh? Sembra stupido il gioco, visto così, però è interfaccia. Sì, sì, così, però in realtà... No. Infatti dallo screen vedi che anche i palazzi sono praticamente tutti bianchi, a parte, sì, i cosi arancioni qua, il parasole. E niente, io avrei concluso, avete domande? No. Io spero che nel 2 usi Dario Argento. Quella non è una domanda. No, è un desiderio. È una domandina piccolina. Ma se per te il gioco è stato difficile oppure è da una media difficoltà semplice da giocare, proprio giocabilità? Allora, diciamo difficile no. Non difficilissimo. Diciamo che è un gioco che va molto a tentativi. Quindi se una sezione non ti viene da subito, magari c'è un modo per farla bene, magari vai dalla parte sbagliata. Un po' Prince of Persia. Esatto, esatto, infatti è stato molto paragonato a Prince of Persia, forse anche malamente, perché sono due generi diversi. Almeno Prince of Persia all'originale era un genere diverso, poi è diventato una cosa obbrobriosa. Sì, sì. Un misto tra tutte le schifezze che andavano di moda. No, comunque difficile no. Non ti sento più. Sta saltando via. Lo sento. Io lo sento pianissimo io. Adesso come mi senti? Un po' piano, un po' alto, dipende dai momenti. Adesso? Ok, ora sì. Ok. Questo è Skype che fa fatica a regolare il volume del microfono. E stavo dicendo che va molto a tentativi, c'è una sezione in cui siamo dentro a una stazione e quindi ci sono i treni che passano da varie parti. È chiaro che le prime volte finisci sotto al treno, però non è difficile come gioco, alla fine ricominci e ce la fai, ecco. Quello che è buono è che salva in continuazione. Cioè i checkpoint sono praticamente ogni 10 secondi c'è un checkpoint, quindi anche se muori molto non perdi mai tanto del gioco, cioè tanto tempo, ecco. E quindi valutazione della versione console di Mirror's Edge? Valutazione versione console, siamo su 3 banane. E aspetto il suo. Quasi quasi sincronizzato. Esatto. 3 banane appunto perché la realizzazione poteva essere migliore, potevano aggiungere varie cose, come ho detto anche prima. Stiamo andando un po' in salita, da 2 a 2,5 a 3. Già, vero. Quindi io sono obbligato a dare 3,5 a qualunque cosa dirò. No, 4 o 5. No, c'è il mezzo, c'è. In mezzo. Quindi chi è il prossimo? L'unico che manca, cioè tu. Ah sì? Tocca ancora a me. No. Sì, si tocca stroncare un altro gioco, no. $20. Sì, non so di cosa stai parlando, comunque sarà meglio passare al mio gioco. No, guardavo che c'è un... il blog ufficiale di RPG Maker ha indetto un concorso per il weekend che praticamente premierà chi ha la storia più bella con RPG Maker. Cioè, tu devi raccontare un po' come hai conosciuto RPG Maker, cosa hai fatto negli anni, allegare delle immagini, insomma la tua storia col tool. E il primo premio è $20 da spendere nello store RPG, di RPG Maker, e un poster ufficiale in edizione limitata. Secondo premio $15. Da spendere sempre lì, e premio per chiunque partecipi, suppongo, cioè participation, $5 da spendere sempre lì. I dollari, come l'immagine di quel sezione di prima, quelli te li dà lui, del padrone di Valve. Lui ti dà i dollari su cui nuota. Dolla. Che bella cosa. Cazzo, però. Sì, basta inventare, non c'è bisogno di dire la verità. Dai. Puoi comprare quei dollari, ci puoi comprare le colonne sonore per gli RPG, quello non è male. Va vabbè, bene, sono dollari. No, vabbè, nel loro negozio, a parte RTP per RPG Maker, c'è anche la musica, che è l'unica cosa decente. Vai. Che bella cosa che hai detto, eh. L'RTP non serve a un cazzo se sai disegnare. Ho capito, però è come se avessi dato una visione indecente del sito. No. Allora, l'RTP, se una persona sa disegnare, non serve a niente. L'unica cosa utile che vendono che non è RTP sono le musiche. Va bene. Tocca a te. Dato che siamo sempre in argomento RPG, purtroppo porterò anche oggi un RPG. Non vi preoccupate, non è, come si chiama, Tales of Symphonia, quello normale. E ovviamente non è di nuovo... non il primo, quello normale. Quello normale, non è neanche quello normale di cui ho parlato l'altra volta. Che non lo menzionerò mai più. Ciao. No, in realtà è quello che hai recensito l'ultima volta, lo stai rirecensendo. No, assolutamente, meglio di no. Gli dà un voto più basso oggi. Un voto più basso è la cosa più cattiva da dire, vorrei. Mezza banana. Tutti. Ma anche meno di... ma anche un quarto, comunque. Volevo tornare al buon vecchio Game Boy Advance, che non ne parliamo da tanto tempo, credo. Oggi siamo in vendita con sopportati. Game Boy Advance non abbiamo mai parlato, mi sa, addirittura. Già, ma no. Anche io ho parlato della PS3 portatile. Siamo in vena di console portatili. Non esiste. Ah, aspetta. No, non esiste. Ma ok. Ah, la PSP, ah, quella roba lì. E te sì, dove sì, l'hai giocato da New Guys? Da New Guys? Sul computer. Portatile. No. Portatile. Ma a Vice City le vendono le PlayStation 3 portatili. Sì, Vice City è ambientata negli anni 80. Esatto. No? E che ne sai? Cioè... c'è il Commodore e l'Amiga, c'è Massimo. Che ne sai? Piano piano si evolve. Beh, la schermata d'avvio era Commodore 64, quindi... Se non ricordo male. Il tempo passa. Ma è che fa con la radio? Stay with me. Basta. Non andiamo su Emotion. Stiamo parlando di Vice City. Vabbè, va. Io devo parlare di un gioco. Ho capito che mi tenete in fondo perché volete licenziarmi. Però non c'è bisogno anche di aggiungere dei mini gag per oscurarmi. Da New Guy. Vabbè. Andiamo sull'Advance RPG. Dato che l'Advance è una console di cui non parla mai nessuno, i giochi ce ne sono parecchi, ma in realtà... cosa ridi? Perché stai parlando a Telegram? sempre Funari, ma... Funari? Chi è Funari? Basta interrompermi! Vabbè, diciamo che il gioco di cui parlerò dà una svolta all'Advance, perché è uno dei RPG più fondamentali che ci sono stati per il Game Boy Advance. Sto parlando di Golden Sun. Forse non lo conoscete o lo conoscete, ci sono due Golden Sun per Advance e uno per il DS anche hanno fatto, mi sembra sì, di aver letto da qualche parte. Dawn of Sorrow. Inoltre... no, quello di Castlevania. Stai zitto, tu sono bene. Inoltre il protagonista di Golden Sun lo potete trovare anche come personaggio aiutante in Smash Bros. Che ti lancia delle mani giganti. Sinergia. Sì, lo dirò durante la scheda del gioco, non c'è bisogno dei tuoi interventi irrilevanti. Irrilevanti. Congruenti. Dunque, iniziamo con la semplicissima trama, però prima anzi no, vorrei precedere con una osservazione. Purtroppo questo gioco presenta le classiche teorie degli RPG, è fatto bene, però... sfrutta le solite pseudotrame che derivate tutte da Final Fantasy IV, purtroppo. Cioè, la classica cosa dei quattro elementi, dei personaggi che padroneggiano l'elemento e delle pietre elementari, ovviamente. Quello che gli scienziati del settore chiamano meccaniche bimbo minchia, insomma. Sì, insomma, nella mente di ogni bimbo minchia, oltre a questa sinfonia, troviamo i cristalli elementali. Cioè, Final Fantasy IV è il sogno bagnato di ogni bimbo minchia, che non è un brutto gioco, però perché copiarlo sempre? Non è un sogno bagnato, è il primo gioco che l'ha fatto, allora andava bene, solo che dopo lo fanno tutti. Lo so. Chi è morto? È morto Super Mario. Ah, era Super Mario. Oh, mamma mia. Vabbè, passando sopra i sogni bagnati che hanno un doppio senso di cui è meglio non discutere. Dopo aver detto per mezz'ora ci succiano il cazzo da soli. Quello lo diceva Kug. Vabbè. Kug. Stai zitto. Quindi, ci troviamo in un classico mondo semi-medievale con le pietre elementali, purtroppo. Non sono pietre. Cosa sono allora? sono cose dei fari, cumuli di energia sopra dei fari. Sì, vabbè, dai, chiamiamole pietre. Ok. Per modo di dire. Nonostante ci sia questo aspetto che vediamo dappertutto, il gioco è fatto per molto bene. I personaggi giocabili sono 4, ma nonostante ciò sono studiati bene e hanno abilità particolari. C'è anche una struttura di evocazioni e anche la trama è abbastanza carina, diciamo. Perciò entriamo nella spiegazione, non riesco a trovare le parole. Il protagonista, che si chiama Isaac, ma se voi volete potete cambiare il nome all'inizio del gioco, vive nella città di Vale, sull'isola di Angara. Non è un'isola. Qui c'è scritto che è un'isola. Però è un continente. Qui c'è scritto of the island però of Angara. Però è un continente. Però è un'isola. È un continente. Ma qui su Mobi Games dicono che è un'isola. Sono degli idioti, è un continente. Guarda su Wikipedia. Ci ho giocato a memoria. Altri nemici, vai. Sono anche Mobi Games. No. Vabbè, insomma. Lui è un adepto nell'abilità della psinergia, che è una particolarità di questo RPG, che lo rende differente da tutti gli altri, perché la psinergia, diciamo che è una sorta di concetto utilizzato per giustificare gli enigmi di questo gioco. Perché non avrete solo la parte di battaglia e di giro, vagare per il mondo, ma durante alcuni pezzi di gioco, per andare avanti, dovrete usare l'ingegno e la psinergia per praticamente smuovere certe situazioni. Ci sono degli enigmi, diciamo. L'ho appena detto 2 secondi fa. Sì, l'ho detto in una parola, enigmi. L'ho detto anch'io prima con una parola, enigmi. La psinergia praticamente è una specie di potere spirituale che ha varie forme. Per esempio c'è la forma dello spostamento, che è... tu con la mente crei una mano gigante fatta di psinergia che sposta le cose. Oppure la telepatia, oppure creare tornadi, usare magia del fuoco e cose del genere. Quindi dovrete anche essere almeno un pochino intuitivi per capire come andare avanti in certi momenti del gioco, ma non è tanto complicato. Comunque sia, il gioco parte in una notte nella città di Vale, una notte piovosa, è molto piovosa, cioè sì, proprio una tempesta, c'è il diluvio, cioè... universale, la gente è disperata, si sta distruggendo metà delle case. Perché sta crollando il mondo. Perché sta crollando il mondo. Il monte. Il monte. E voi con il vostro amico Gareth dovrete andare ad aiutare gli abitanti del villaggio che stanno scappando dal crollo delle varie case per colpa del diluvio. Durante questa, chiamiamola pure cutscene più o meno, prologo, ma anche prologo, va bene, vedrete che il fratello di Jenna, una praticamente la migliore amica del protagonista, verrà travolto da un'onda anomala. Felix. Si chiama Felix, lo so, e scomparirà dalla città. Questo quindi è solo un'anticipazione del gioco. Dopo partirà il gioco vero e proprio, cioè in un futuro, qualche anno dopo, sempre nella stessa città, il nostro protagonista sarà cresciuto e insieme ai suoi amici dovrà partire per l'avventura che si attuerà dopo un pezzo di... Sì, lo so che mi stai correggendo. Prima succede qualcosa. Sì, prima vengono chiamati... Da Cradin, il vecchio stato del villaggio, che gli dice che loro devono andare in un tempio che è in cima a Vale a controllare le pietre elementali, chiamiamole così. Cioè, praticamente scoprono. Cosa no? No, sto contando quante pietre sono. Sono 4. Sì, ma non sono pietre. E che, vabbè, energie elementali. Che praticamente danno una stabilità al mondo, diciamo. E vabbè, adesso non inoltro di più nella trama. Comunque dopo succederà quel che succederà e si avrà un'introduzione migliore al gioco. E si va all'avventura. Si va all'avventura, si incontrano nuovi personaggi e incontrerete anche i Dijin, che sono praticamente il metodo di evocazione di questo gioco, che ovviamente non è uguale a quello dei Final Fantasy. Diciamo che è una variante, perché anche i Dijin sono legati a degli enigmi, nel senso, dato che avete 4 personaggi, ognuno padroneggia un elemento, di conseguenza ci sono 7 Dijin, mi sembra, forse anche 8, di ogni elemento. Quindi 8 della terra, 8 dell'acqua, 8 del vento e 8 del fuoco. Sono degli omini con forme particolari, marrone, rosso, blu e azzurro. No, bianco, quello del vento. Ecco, loro, se li trovate durante il vostro viaggio, diventeranno evocazione del personaggio che li padroneggia, e più ne avrete, più la evocazione che farete di quell'elemento sarà potente. Il problema è che, a parte i primi quattro, che sono praticamente obbligatori, gli altri sono nascosti nei dungeon, nelle città, e dovrete usare la psinergia per trovarli o per acciuffarli, perché a volte scappano. Alcuni sono buoni e si uniscono subito a voi quando li incontrate, altri vogliono testare la vostra forza e dovrete batterli per farli unire a voi. E diciamo che sono una specie di obiettivo se volete completare al 100% il gioco. Più o meno gli obiettivi secondari ci sono solo Dejin. Un pezzo di trama secondario se tornerete a un certo punto del gioco in una delle prime città. E anche un boss segreto particolarmente forte che vi darà una dell'arma più forte del gioco. Ecco, la trama, come dicevo prima, è strutturata bene e porta all'evoluzione dei personaggi. Purtroppo non è completa perché dà un finale a questo Golden Sun, ma in realtà ti apre un altro Golden Sun. Infatti dopo ci sarà un seguito sempre per Advance. Ma il finale alla fine in realtà non c'è proprio. Diciamo che... No, infatti, lascia la storia in sospeso. Esatto. E infatti diciamo che vedrete una versione parallela nel secondo. La tipologia di battaglia è quella classica, diciamo che voi vedete i vostri personaggi di spalle che combattono contro i mostri. Ci sono le classiche opzioni da battaglia: combatti, fuggi, uso oggetti, esamina, evoca anche. Evoca è dopo nella scheda. Se tu fai battaglia, dopo c'è attacca, magia, evoca. Ecco, un'altra cosa che mi ricorda molto Final Fantasy VIII è l'abbinamento di Dejin al personaggio cambia le caratteristiche del personaggio stesso. Nel senso, se voi date un Dejin della Terra a Garrett, che padroneggia il fuoco, lui magari sarà più forte in una sola statistica e più debole in tante altre, perché non è il suo Dejin, cioè non è il Dejin del suo elemento. Se invece lo date ad Isaac, avrà miglioramenti di più statistiche e meno statistiche peggiorate, diciamo. C'è anche un'altra cosa. Cambiano anche le sinergie che puoi imparare da questa cosa. Fa gli elementi abbinati, praticamente. Sì. Sì, se ad esempio voi abbinate, mi sembra, con Isaac, gli date un Dejin del fuoco, no, anzi dell'acqua, potete usare la sinergia crescita, che se trovate un seme o una piantina che balla nelle mappe, usate crescita, verrà fuori un alberone, tipo una pianta gigante su cui potete salire. Quindi a volte per trovare nuove sinergie dovrete anche abbinare Dejin ad altri personaggi. Cioè, scambiare un po' gli elementi, diciamo, variare. Fai dei sottoelementi. Che però indeboliscono il personaggio, quindi è meglio usarli solo quando girate nella mappa del mondo e dopo cambiarli quando dovete combattere. Per il resto, presenta un classico mondo RPG. Le persone sono molto felici e gioiose. Il protagonista dell'uno non sa parlare. E il protagonista Isaac purtroppo non sa parlare, da una cosa che detesto. A meno non è doppiato da Asier Argento, però meno farlo parlare. Nel 2 parla quel protagonista. Ah, perché nel 2 il protagonista non è Isaac. Sì, infatti Isaac lo incontri e non parla ancora. E infatti questo mi riporta a Dragon Quest 8, dove il protagonista non sa dire nulla. Il protagonista di Dragon Quest 8 è l'inutilità. È pan maschio di Dragon Ball. E vediamo un po'. Una cosa interessante di questo mondo è, come dicevamo prima, il continente di Agara. Agara si chiamava? Sì. Angara. Che quindi lo definiscono un'isola, in realtà un continente. Sì. Rappresenta il gioco totale, perché voi nel primo farete una parte di Angara, ma non tutta. Farete il resto del continente nel secondo gioco. Quindi non è come gli RPG classici fatti un po' alla cacchio, dove voi in 2 secondi vi fate il giro di tutto il mondo. Qui è rappresentato un po' meglio, i continenti sono gestiti meglio, ci sono più città, più dungeon. Mod 7, ma no, non è mod 7. Non c'è il mod 7. Un pochino. Alcune cose ostiche sono i Dejin nascosti, perché alcuni non vanno trovati enigmi, devi proprio trovarli per caso, perché alcuni, lo svelerò, ma tanto, anche se vi dico questo, probabilmente non li troverete, sono nascosti nella mappa del mondo, che vuol dire che voi li incontrerete casualmente, ma solo in un certo punto. E quindi lì anche è un po' una botta di culo, dai, se non sei guardato nella soluzione, trovarli. Se ti alleni a mappa del mondo. Ma direi di no, perché comunque il sistema di battaglia è gestito in modo un po' particolare, nel senso che i mostri non danno tanta esperienza, e infatti di base si sale di livello battendo i boss in questo gioco. Di conseguenza arriverete a un finale tutti allo stesso livello. Cioè di solito al boss finale si arriva sempre sui 30-35. Questo anche perché il gioco non è molto lungo. ha una longevità medio-bassa, diciamo, nonostante abbia qualcosina di secondario, ma non sono tante cose. Le città sono molto belline, diciamo, non sono tanto grandi e ovviamente non c'è molta variazione, nel senso è un classico, tre casette con i personaggi che parlano, ogni tanto c'è la prigione, c'è la chiesa che è una particolarità del gioco che servirà se voi venite a... prendete una malattia da un mostro, diciamo, perché non mi fraintendete. No, la maledizione. Ma ci siete ancora, vero? Avete preso una maledizione? Mm? No, non c'è maledizione. Più. Zira non c'è più. No, è che vi sentivo un po' male. Ah. Comunque. Male. Non ho sentito, cioè praticamente mi sono perso un minuto, sentivo così sentivo. L'ultimo minuto? Sì. Ah, ok, allora ti prenderai anche il prossimo. Perché? Non lo so. Quindi, dicevo, ci sono queste chiese che a pagamento vi risusciteranno il personaggio o vi toglieranno la maledizione da personaggio. Anche perché in questo gioco, purtroppo, gli oggetti che resuscitano, mi pare, non ce ne siano. Forse ce ne sono, ma sono rarissimi. E quindi uno dei pochi modi per resuscitare è andare in chiesa e dare e sborsare tutti i soldi che avete. Al vecchio prete fe tutto quel bastardo. Il vecchio prete riccone. Vabbè, poi ovviamente le città presentano i classici alberghi da RPG, le classiche armerie da RPG e i classici negozietti di oggetti stupidi da RPG. Però ha anche alcuni pezzi molto carini, che ovviamente potete trovare anche in molti altri del genere. Cioè, tornei a mo' di battaglia in alcune città, minigiochi particolari. E anche situazioni divertenti, dai. In un modo o nell'altro è un mondo molto bambinesco, però si gioca bene ugualmente. E come in tutti gli RPG che si rispetti, ovviamente c'è anche il pezzo della nave. E beh, quello è basilare in tutti gli RPG. Nell'uno c'è il pezzo della nave? Sì, me lo ricordo perfettamente. Uh-huh. E dato che il vostro protagonista non sa parlare, quando un altro personaggio vi parlerà, voi potete solamente rispondere sì o no. Ed è irrilevante, tra l'altro. E sono cose irrilevanti. Però in alcuni pezzi di gioco potete fare delle scelte che non servono a nulla, giusto a vedere qualche scenetto. Sì, in effetti ti chiedono sì o no, e poi se dici no, dicono ma lo devi fare lo stesso. Quindi... ti spingono dentro. Ah, beh, allora. Non si fa rispettare il protagonista, non sa fare niente. È troppo difficile programmare la scelta. Una scelta multipla. Sì. Sensata. Programmarla sensata. Per quanto riguarda la fama del gioco, non ne ho la minima idea se ha avuto molta fama o meno. Sì, tutti dicono che è il miglior gioco della Game Boy Advance. Ah, però qui vedo GameCola.net che dà 4.3 su 10. Un sito che si chiama GameCola. Vabbè, cioè, però farti capire, cioè, guarda, saranno tipo 30 voti. Sì, che danno tutti 80. E tipo. Sono tutti 8 e 9. Poi ce ne sono 3 che danno 7. E solo Game Cola che dà 43. Quindi... secondo me, questo gioco c'è poca cola. E poi, oddio, sai perché gli ha dato un voto basso? Perché lui dice che hanno copiato Chrono Trigger. Non c'è nulla di Chrono Trigger in questo gioco. E poca cola. Vabbè, insomma, possiamo capire quanto sia affidabile GameCola.net. Vabbè, come se me mi fai recensire un gioco da Telltale, io te lo stronco e dico che fa schifo, però non è che... cioè, io non sono attendibile. E dici che è uguale a Chrono Trigger. Io non sono attendibile, a me stanno sul cazzo, questo Game Cola non è attendibile. Quindi. E dice anche Pretty Summons. Pretty Summons? Sì, Pretty Summons. Quindi, dai, diciamo che in generale piace, è piaciuto, ha avuto fama, ha avuto successi, ha avuto due seguiti. Sì. C'è anche il merchandise, aveva in Giappone, ha avuto anche il merchandise, ma c'erano stati anche dei cosplayer, probabilmente, molto probabilmente cosplayer ci sono di qualsiasi menata, quindi c'è anche quello di Mr. Satan. Non è un cosplayer, è una persona vera. Però esiste. Sì, guarda, Golden Sun cosplayer, quanti ne vuoi. Beh, considerando che esistono anche quelli di Legend of the Dragon, c'è qualche figa, sono tutti cessi secondo te? No, vabbè, dai, vabbè, bene o male i cosplayer di ogni RPG, sai, esistono di ogni RPG, anche di quelli più scialbi e sì, banali. Sì, anche di Teso banale. Purtroppo anche di Teso Sinfonia. Sì, banale, Sinfonia, lo dico. Purtroppo esistono anche quelli di Tales of Symphonia. Purtroppo per loro. Dunque... Io ce l'avevo, è vero, col gioco c'era la mappa del continente col 2, io l'ho persa. Vabbè, però. Come quella di GTA che l'attaccavi ai muri. Vabbè, quella di GTA è una cavolata. Io l'avevo attaccata al muro. Quella di GTA 3 sì. Dunque, abbiamo parlato di battaglia, abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di personaggi, parliamo un po' di grafica. La grafica, come in ogni buon RPG che si rispetti, abbiamo i classici bambini con semi testone, ma in realtà è abbastanza normale il loro. Cioè, hanno 15 anni questi. Sì, dai, bambini, però gli occhioni ce li hanno comunque. Indubbiamente possiamo notare che abbiamo le classiche... i classici cliché, cioè nel senso... Classici. Il personaggio femmina che è una maga che principalmente si basa su magie curative, questo è un classico. Sbuffo perché... Perché è così. È sempre il così. Classico protagonista con la spada, l'armatura. La maga bianca, se proprio vogliamo citare Final Fantasy. Il classico protagonista guerriero. Che non parla. Vabbè, che non parla. L'amico un po' grosso di stazza, non tanto qui. Che anche lui si destreggia con una spada un po' più... Lui è asceggia. Dopo lui può usare le asce e gli altri no. Sì, può anche asceggiare. E anche... come terzo personaggio il mago del vento abbiamo, che questo qui sarebbe il classico mago nero. Quindi abbiamo la classica squadra da RPG: guerriero, mago bianco, mago nero e quell'altro, quello che volete che sia, monaco, bandito, quello che è. Poi ovviamente sono i personaggi i cattivi del gioco, anche loro hanno dei design particolari, ce ne sono anche parecchi di nemici. E anche i mostri non sono niente male da vedere. Sono un po' strani da vedere in battaglia perché hanno una forma in 3D. E i Dejin, man mano che si evolvono, diventano creature sempre più imponenti e assurde. Tipo da una fiammella con una faccina puoi diventare un enorme leone di fuoco cavalcato da un tizio a caso con una spada. Kirin! Esatto, Kirin. Oppure c'è un'evocazione della terra che mi ricorda molto Torterra, però in versione rana. Comunque... Miyamoto bastardo. Sì, Miyamoto è un bastardo. No. No, anzi, non è vero. Non parlare male della Nintendo. Cosa manca? Le musiche? Le musiche, sinceramente, non ne ricordo. Non ne ricordo, però... dato che ho questa visione un po' scura, direi, che sono abbastanza ambientali, quindi che non le noti neanche tanto, dai, sono una cosa scontata. Il 3 è PG-12. Il 3 è PG-12. Quindi vuol dire che ci sarà più violenza, oscenità e... No, è la violenza... Perché in RPG ammazzi le creature, comunque, quindi c'è la violenza. Ma anche nel primo ammazzavi le creature. Ma nel primo non lo trovo il PG, però adesso guardo. Non esiste. Signori, avete qualche domanda o commento negativo su Tales of Symphonia? Il primo non c'è scritto il PG. Cosa c'è da te su Sinfonia? Non lo so, per stare sull'argomento. Ma io che non lo citavi più. Chi? Io no, voi potete citarlo. Ah, ecco. No, il Pesci non ce l'ha addirittura Golden Sun. Non ne ha bisogno, è fatto bene, è posto. Però non può andare per Game Color, purtroppo, e neanche per Game Boy, perché è un Advance puro. Già. No, lo ricordo perché sulla custodia c'è scritto. Ah, è vero. Cosa? Golden Sun potevi usare il cavetto per l'arena. L'arena, sì. L'arena, perché quando finivi il gioco c'era l'arena che potevi fare le sfide con i personaggi con l'equipaggiamento che avevi alla fine quando hai finito il gioco. E poi se quando metti la cartuccia del 2... No, allora, quando metti la cartuccia del 2 e fai un nuovo gioco, ti chiede, hai Golden Sun 1... con una partita salvata, così hai già l'equipaggiamento, la roba che hai trovato nell'uno. Se dici sì, lui ti dice, ok, togli questa cartuccia e metti l'altra. Se dici no, non togliere la cartuccia, idiota, e continua a giocare. Ha un sistema per controllare se hai salvataggio, che praticamente ti fa togliere la cartuccia e rimettere la cartuccia. Invece dopo l'hanno risolto, perché tipo nei Pokémon della Perla, se tu avevi quella dell'Advance e la Zaffiro, potevi scambiare, potevi mandare nella zona amici i tuoi pagliacci della vecchia versione. Sì, esatto. Ma anche lì, cioè, lì lo fai, però c'è un sistema abbastanza rurale di scambio cartucce. Eh sì, perché era l'unico modo. Erano due cartucce, però funzionava. Che altro dire? Nel gioco sono presenti mini giochini anche a modo di stealth, diciamo, mi ricordo un pezzo in particolare. Stealth? Sì, dai, insomma, i classici di Sarasect che non si devono guardare in faccia. Away. So ti scoprono. Oppure anche semplici puzzle tipo sul rotolare sui tronchi in acqua e farli incastrare in certi modi per creare una strada. È vero, è vero, è vero. Quindi non si basa solo sulla sinergia, ma anche sulle vostre capacità mentali. Sì, i dungeon hanno molti puzzle. Per cui, se siete classici bimbini che giocano a Tales of Parapapà, farete anche fatica ad andare avanti. Sinceramente, di difetto del gioco, le cutscene sono troppo troppo lunghe. Cioè, all'inizio, nel prologo, ti devi sorbire dei dialoghi che durano mezz'ora, ecco. E non puoi far niente. Questo è un gran problema, soprattutto nel punto iniziale in cui dovete andare in questo tempio particolare. Incontrerete un tot di due mostri ogni 40 passi e ogni 2 secondi, ogni volta che andrete in stanza, c'era il vecchio Kraden che si metterà a dire 3000 cose all'infinito. Voi dovrete dire sì o no, che non cambierà nulla, e ascoltarvi tutta la maletta che vi fa. E ovviamente dopo risolvere qualche enigma sempliciotto per riuscire a uscirne. Poi, se non... no, anzi no. No, nient'altro. Quindi possiamo dire di aver finito. Cioè, di aver concluso per quanto riguarda il gioco in sé. Cos'è? Un platform? Sì, si chiama Bugongo. Era fatto uno? Sì, ha fatto con Flash. Vabbè. E vedo che come vita ha le uova di Yoshi. Sì. E se le porta dietro. Ed è fatto con anche i cosi. I tile di Yoshi Island. Yoshi Island, sì. E lui oltretutto si porta dietro l'uovo. Quindi è proprio Yoshi Island ripato. No, ha rifatto solo le creature. Ah, ok. Dovrà rimasto. Ah, devo dare il voto, giusto. A Bugongo? A Bugongo. A Bugongo si merita 2 per la fiducia. Perché ancora non l'ho giocato. Per quanto riguarda da Golden Sun, io sarei tra il 3 e il 3,5. Però non esiste molto tra il 3 e il 3,5. Però gli diamo 3,5 perché è una puntata che va in salita. Dai le banane. 3 e un quarto. No, un 3,5. Quanto gli hai dato? 3,5. Perché? Perché prima di tutto la puntata va in salita. Ah. E per seconda cosa... problema che è un gioco che non è completo perché si completa col secondo. Se avesse voluto avere la mia protezione, la mia benedizione, sarebbe dovuto essere un gioco completo e quindi avere tutti e due insieme. Invece così è un RPG per metà, diciamo, e infatti non dura tanto. Se lo colleghi insieme al 2 invece viene un RPGione, ma purtroppo non è così. Mm-hmm. È la cosa che odio quando fanno così, cioè che spezzano il gioco a metà in gioco 1 e gioco 2. Sì, più o meno il concetto, la sensazione che ti dà. Cosa sta? È un robot. Ah, è il tuo riverbero. Perché? È il riverbero che esce dalle casse di qualcuno di voi. Riverbero? È quello che diciamo noi. Sì. Qualcuno lo trasmette dalle sue casse al suo microfono. Oddio, si sta. Adesso non sente più. Comunque, dicevo, sì, la sensazione che ti dà è quello, anche perché il 2 inizia immediatamente dopo che è finito l'1. Proprio spudoratamente. Subito dopo la battaglia finale dell'1 inizia il 2. Per cui sì, dai, ti dà una sensazione, tu finisci l'1 e dici, vabbè, la mia storia non è mica finita, oh. Sì, tocca aspettare 2 anni con quello che è. Io il 2 l'ho scoperto per caso che era uscito quando l'ho visto in un supermercato. Non ha avuto tutta la pubblicità che doveva avere. Non si sapeva neanche che era uscito, bene o male. Se non seguivi i siti del settore. Per cui di cosa si parla adesso? Ah, niente, la puntata direi che è finita, no? Riccardo, sei ancora? Sì, perché. Eh? Sì. Sì, perché la sezione figura è stata pulita. Non è abolita, è stata distrutta. È spostata in un futuro migliore. In un futuro un po' lontano. A parte che siamo durati un casino oggi, non c'è tempo. Sì, chiamate fra 2:26. Ok. Là. Allora, infatti sono le 6:30. Iniziamo a chiudere, quindi, ok. Chiudiamo le finestre. Chiudiamo le finestre. Allora... Cosa? Le finestre sono tutte chiuse qua. Ok, ti salto. Allora. Non morire. Maledetto, maledetto virus T. Allora. Gira 93, hai chiuso le finestre del tuo attico a Vice City? Ho chiuso. Saluto anche tutti. Ciao grandissimi. Rixga 4.5.5.0.b. Ciao. Fai più tempo a dire il nome che a lui a salutare. Chiusura sessione in corso. Chiusura finestra in corso. Non spegnere il computer durante l'operazione. E Scar the Pumpkin col bicchiere in mano. Sì, sono io. Ricordate, i cristalli elementari sono la base di una sana colazione. Colazione ai 5 cristalli, ai 4 cristalli. E io sono Vario Punk. Ah sì, Vario Punk vi saluta. Direi buia un secondo che dottor Arkham sto di Bugada. Bugada.